בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Un minuto dopo le 21, oggi è un giovedì un po' afoso, se vogliamo, qui a Padova, qui a Blu Radio Veneto, ma anche per la bellissima musica che questa sera ascolteremo. Buonasera, dicevo, da Agostino Spolaore, da queste frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, anche per questo giovedì 11 luglio 2013, un live in acustico con una immensa, dico poco, artista che amo, lei lo sa, gliel'ho detto un sacco di volte, continuerà ad essere questo mio sentimento grande per questa artista che si chiama Rai Berivale, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima di tutto devo salutare il mio consueto ormai compagno di tante avventure, di tanti viaggi, di tanti concerti live in acustico qui a Blu Radio Vento, e cioè Maurizio. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ma hai visto chi c'è in studio? Lo so, ma chiaramente, cioè, non so se mi spiego. Appunto, io sono sempre nella fossa dei leoni, doppiamente leoni stasera, è tornata, musicalmente. Hai visto? È tornata. E allora, prima di dare il via a questa carrellata all'insegna della musica straordinaria, vi ricordo i nostri dati tecnici, allora le nostre frequenze, dicevo 88.794 e 600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro numero telefonico, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms, se le volete mandare questa sera, perché no, Raibi sarà felicissima di rispondere, a meno credo, alle vostre domande, e cioè il 346 23 20 033. Le nostre pagine su Facebook è semplicemente Blu Radio Vento, una e l'altra è Blu Radio Vento Rock Wave, e quindi se volete risparmiare i soldi all'SMS potete tranquillamente scrivere in queste pagine e poi io leggerò e farò presente a Raibi quello che avete scritto, oppure anche nella mia pagina, cioè Agostino Spolaore, quindi avete l'imbarazzo della scelta per togliervi qualche curiosità. E poi ancora, cosa vi devo dire, siamo su Twitter, quindi ci inguettiamo anche lì, e poi dove siamo anche, Maurizio, siamo un po' dappertutto, insomma. Sì, siamo su via internet, quindi ci posso sentire dall'Alaska e siamo anche in streaming, ovviamente, chiaramente dappertutto, in ogni parte d'Italia e del mondo, chiaramente. E lo streaming, basta collegarsi semplicemente nel nostro sito, cioè www.bluradiovento.it, e lì ci potete ascoltare appunto in diretta 24 ore su 24, oltre a leggere tutte le notizie inerenti alla nostra regione, ma anche al di fuori, e anche i fatti di cronaca, ma soprattutto ci sono le recensioni che mettiamo nei nostri live, quindi potete leggere anche quello che ha fatto l'artista, quello che proporrà, insomma c'è un po' di tutto nel nostro sito, ve lo ricordo, www.bluradiovento.it. e adesso Maurizio, hai visto chi c'è? Dimmelo tu chi c'è. La musicista, l'artista, si chiama Rebi Rivale, quello è importante. Ciao Rebi, buonasera, Rebi. Benvenuta. Ciao ragazzi, bentornata, direi. Bentornata. Siamo molto contenti di questo rendezvous, ma ogni promessa è un debito, quindi... Anzi, io ti ringrazio veramente perché me l'avevi promesso e hai mantenuto la promessa. È stato un parto lungo, difficile, di 6 mesi, 7 dalla sì, data prevista, però insomma l'importante è che sei qui, che siamo qua e siamo contentissimi, grazie a voi. Allora Rebi, prima di cominciare io volevo dirti un aneddoto che abbiamo avuto io e Maurizio, tanto per farti capire quanto abbiamo apprezzato il tuo disco. Una sera ci siamo trovati qui prima di cominciare la trasmissione, abbiamo detto stasera facciamo, tra un'intervista telefonica e l'altra, facciamo ascoltare un pezzo di Rebi, visto che abbiamo un disco nuovo in mano. Sì, cosa facciamo ascoltare? Non lo sapevamo, è talmente bello scegliere, ed è stato difficile scegliere un pezzo da questo disco perché non sapevamo veramente cosa fare. Poi ho imposto la mia democrazia, ho detto facciamo ascoltare l'Aquilone, e abbiamo proposto quella. Poi invece Maurizio ha scelto per la programmazione Histoire. Sì, ho scelto Histoire Noir perché a me... piaceva, cioè una questione proprio mentale, piaceva di più, non è che fosse brutto quello, assolutamente no, però Histoire Noir mi è entrato meglio, e allora, visto che sono democratico, ho deciso di far sentire questo. Allora, ci sei fatti accompagnare da due tuoi musicisti ormai fedeli compagni, da tanti viaggi, da tante emozioni, li vuoi presentare tu? Sì, sono qui con Ornella Tusini, che mi accompagna con la chitarra classica, e con Davide Sciacchitano al contrabbasso, e con una sorpresa per voi. Una grande sorpresa. Da Catania, Rossella Aliano, che assieme ad altri artisti emergenti in Italia ha contribuito a rendere questo album la bellezza policromatica di album che è. Quindi... Ciao Rossella, benvenuta anche a te. Ciao Agostino, finalmente ce l'abbiamo fatta, vedi, anche se per poco però. Rossella Ariano l'abbiamo avuta telefonicamente qualche mese fa, se vi ricordate, sì, con il suo progetto Libera Avante, e ci ha raccontato un po', insomma, delle sue storie musicali. Noi l'aspettiamo qui dal vivo, Rossella, l'invito io te lo rinnovo sempre, dal vivo con tutta la tua musica. Prima o poi succederà, sono sicura che succederà. Abbiamo raccontato un po' tutto, adesso parliamo di questo Emergenze, Rebi. Allora, quanta fatica? Tanta, ma la soddisfazione la sta superando, quindi bello, è bellissimo. È stato un lavoro lungo, è stato un lavoro di un anno e più, abbiamo avuto qualche ritardo nell'uscita, è stato un lavoro appassionante e... è stato un lavoro che mi ha portato in diversi posti d'Italia, poi, come testimonia Rossella, io un anno fa io ero a Catania proprio a registrare il brano di Libera Dante, che è strepitoso. E che adesso lo ascoltiamo. È stato un viaggio di emozioni anche, perché invitare 5 emergenti sul territorio nazionale a mettere la loro firma stilistica su dei brani con musica e testo miei è stato una sorpresa per me. Nel senso che poi ho ricevuto, al di là dell'entusiasmo e del sì immediato da parte di tutti, e sto parlando non solo di Rossella Aliano, di Libera Dante, ma dei Luna in Quarto, presente, con i quali io condivido il contrabbassista, di Giovanna Dazzi, di Consuelo Orsinger e di Emanuele Bocci. Emanuele Bocci l'abbiamo già avuto qua, che conosciamo bene. E ecco. Consuelo Orsinger invece verrà a fine novembre, già ve lo dico in anticipo, ci regalerà l'esclusiva del disco nuovo che sta facendo. Quindi è stato un viaggio bellissimo, di emozioni, di persone, di anime belle, di posti, di stagioni, di tante cose insieme. Sono Ma come mai felice. Ti è venuta questa idea di coinvolgere altri artisti? Perché io credo che il sottobosco della musica, che continuiamo tutti a chiamare musica emergente, nella realtà dei fatti viviamo in un paese dove allo stato dell'arte un emergente sembra restare emergente a vita, perché quello che poi gira nei network o nelle radio, chiamiamole maggiori, è una musica di altro tipo, e invece secondo me il sottobosco è ricchissimo. Io ascolto quasi solo emergenti, sono anch'io. Bravissimi, ci sono... a voi do il merito di questo, noi siamo felicissimi di venire qua anche per questo, perché voi questo lo riconoscete, purtroppo non sono in molti che lo fanno, e quindi io avevo voglia assolutamente di avere come miei ospiti, ma come anche miei compagni di viaggio, perché noi condividiamo una storia che è quella di quelli che non mollano e quelli che comunque, nonostante tutto, nonostante sembra che non ci sia il riconoscimento che io darei a mille, ad ognuno di loro, e sembra che non arrivi come dovrebbe. Tu hai detto una cosa molto forte, tu non giri le cose, vai direttamente all'ostacolo, vai dritto all'ostacolo. Hai detto una cosa significativa, che l'album è quasi una provocazione. Assolutamente una provocazione forte musicale, ma una provocazione, perché a me, io ho sentito tantissimi dischi, però è rarissimo che un artista italiano scovi questa idea di raggruppare 5 colleghi emergenti in un disco. Ma io credo invece che noi di questo sottobosco lo si faccia più spesso di quanto non si pensi. Forse non si sa, ecco, quello. E questo è il problema. Il problema è quello. Perché è un mondo dove collaborare paga più che non competere. E quindi abbattere la barriera della rivalità. Che esiste purtroppo, ma che non dovrebbe esserci. Sì, abbattere questa barriera riconsegna mille volte l'energia in più. E quindi di collaborazioni ce ne sono, io sicuramente le ho volute evidenziare. Ecco, hai detto una cosa giusta, le hai volute evidenziare. Le ho volute evidenziare, certo, perché Emergenze si riferisce anche al fatto di questa somma di emergenti, ma anche di emergenze di contenuti. Questi 5 emergenti che io ho invitato non sono soltanto dei gruppi o delle realtà che hanno una bella musica, hanno dei progetti interessanti, profondi, hanno dei contenuti. Io... Ho piacere nel pensare che qualcuno che ascolta il pezzo di Libera Dante o di Luna in Quarto o di Consuelo o di Emanuele o di Giovanna si interessi di dire: ma sentiamo che cosa fanno, perché è una mossa che paga, è una mossa che paga per tutti, e io resto convinta di questo. Perfetto. e noi siamo pienamente e ampiamente d'accordo con te. Senti, c'è già un messaggio, te lo voglio leggere perché mi ha fatto sorridere mentre parlavi con Maurizio. Allora dice, è Gino, comunque l'ascoltatore, sì. E dice un abbraccio a te Maurizio, oltre che ad Alberto, e a quanti si adoperano per questa radio a servizio della buona musica. Questa sera poi c'è Rebi, a cui mando un caloroso abbraccio. Ho avuto la fortuna di ascoltare live alle Botteghe, la prima volta creò una magica atmosfera, è indelebile, ricordo in me col suo vestito bianco lungo. Un saluto alla brava Rossella e ai fedeli musicisti di Rebi. PS, ma i cannoli siciliani li ha portati per Rossella. Rebi. No, però Rossella... cioè, non dice, li ha portati poi Rossella per... gli arancini ci ha portato. Ma lui scrive i cannoli qua. Gino, intanto lo saluto, io lo ricordo. Tra l'altro quell'edizione di Botteghe d'Autore è stato, tra virgolette, il debutto di quello che poi è diventato il gruppo, il trio che siamo. Perché è stata la primissima volta che io suonavo con Ornella, che al tempo non era, era poco più che una conoscente, era una chitarrista brava di cui io avevo bisogno per andare a Botteghe. Quindi la nostra esperienza è iniziata lì. E Gino me lo ricordo, mi ricordo la tunica bianca, mi ricordo tutto. Lui è molto carino, è molto carino. Lui sì. È un fedele ascoltatore, sì. Nostro. Sai. Comunque Rossella ci ha portato gli arancini, che sono, ecco, finiti in un quarto d'ora. Avevi promesso che me ne portavi uno, però. È finito, così, è finito. Tutto esaurito, eh. Sentite, io direi di far ascoltare subito La mano dei Libera Dante, perché si sente subito come dire, la tua mano, Rossella, in questo pezzo, musicante. Sì. Ci hai messo proprio la tua musica, insomma, la tua terra, la tua Sicilia. L'obiettivo era proprio quello, soprattutto l'obiettivo di Rebi, insomma, di mettere molto sud in questo brano, anche perché come sonorità, già come scrittura, lo richiamava tanto. Quindi quando l'ho ascoltato ho detto, bello, adesso... lo faccio mio anche, no? E così infatti è stato, anche perché lo sento, Rebi lo sa, è come se l'avessi scritto io sto brano qui, no? Certo. A parte appunto che la collaborazione è stata strepitosa, ci siamo divertiti un sacco e quindi sono contenta. Immagino, e penso più di tutti Rebi. Allora diamo il via a questa presentazione di questo disco nuovo, Rebi. Allora, il prossimo pezzo direttamente da Catania, con i Libera Dante e Rossella Aliano, Musicante. Canta, fai diventare l'aria parole, canta di gente che piange e che ride, canta di pancia, canta di cuore, canta chi ha perso e chi cerca l'amore, canta per tutti, canta per uno, fosse anche l'unico ad essere cattivo, che una ragione si trova sempre, un musicante. Canta il dramma di un altro in una canzone, vivigli addosso fino a stare male, senti nel vuoto, senti il dolore, senti sul volto le lacrime amare, non lamentarti del tuo mestiere, che non c'è altro che tu possa fare, se non confonderti tra le esistenze, un musicante. Esci e ricopriti di carta a carbone, segna la pelle di tutte le cose, guarda e poi scriviti ogni impressione. Oh musicante, fai il tuo dovere. Canta per dar fastidio a chi non ha tempo, canta gli addosso che vivere un lampo, canta la gioia a chi non ricorda, canta la morte a chi non si ferma, fagli vedere un altro colore dentro lo specchio del bene e del male, fa che la lingua sia incandescente. Oh musicante. Li sogni e li sorri veri, che si chiudi i luoghi, si fanno tagliari, piglia la mira senza sparare, lascia ballare la vita che a te. E muoviti svelto, non fa rumore, vai dove l'ordine copre le cose, porta via tutto come un torrente, oh musicante. Esci e ricopriti di carta a carbone, segna la pelle di tutte le cose, guarda e poi scriviti ogni impressione, oh musicante. Come carta a carbone su tutte le cose, ogni impressione, fai il tuo mestiere. Esci e ricopriti di carta a carbone, segna la pelle di tutte le cose. Guarda e poi scriviti ogni impressione. Un musicante, fai il tuo dovere. Canta in mezzo alle storie, punta lucore, lascia ballare la vita che avveni. Picchia la mira senza sparare, fa che l'uomo non possa capire. Punta le storie, punta la vita, caccia di piano, caccia di fatica. E lascia ballare, un musicante. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qui ancora in diretta 21:16. Ci porto i saluti di una tua collega che è stata qui qualche giorno fa, si chiama Arianna Antinori. Arianna Antinori, l'ho conosciuta a Milano in occasione della finale, semifinale e finale dell'artista che non c'era. È una potenza, una potenza. Sì, una che fa Janis Joplin praticamente in modo strepitoso, proprio Dice salutamela tanto con tanti O. È veramente una potenza, una di quelle donne che deve far musica se no esplode. Si muove in continuazione. Sì, è stata qui e ci ha regalato che lei è veramente un'ora e mezza splendida. Insomma. Sì, no, lei d'origine, sì, vive a Vicenza, ma d'origine deve essere toscana. Romana. Va bene adesso, ok. No, volevo sottolineare una cosa, mentre il pezzo andava, io e Rebi e Rossella ci siamo parlati, e Rebi ha detto una cosa molto bella: io sapevo che quel pezzo andava benissimo per la band di Rossella, era proprio adatto a lei, e quando gliel'ho consegnato, chitarra e voce, poi Rossella, col suo humus musicale, l'ha gestito, l'ha ampliato, l'ha fatto suo, è così Rossella? Esattamente così. È una cosa molto bella, molto significativa. Si sente che si respira gli umori, i sapori mediterranei, assolutamente. Siciliani, sì. Al 100%. Sì. È una cosa molto, molto bella, molto significativa, Re. Sì, beh. È l'idea che parte, la tua idea parte da quello. Consegnare lo spirito musicale tuo, ma attraverso gli occhi i loro colori. Sì, ma così è stato per loro, così è stato anche per gli altri che poi sentiremo. Per gli altri, certo, è stato esattamente. Quindi così. È una scommessa vinta al 100%. Per me sì. E insomma, direi che il riscontro sul disco ci premia. Sì, assolutamente. Io la tengo in sottofondo intanto. Quindi sono felice per me, sono felice per loro. Molto. Che bella, veramente bellissima. Cioè, questo ritmo, beh, insomma, libera Dante. Musicante per niente, si chiama musicante per quel motivo. Poi, tra l'altro, è il punto geograficamente più lontano di tutto il mio viaggio, no? Cioè, proprio l'estremo, Catania, Udine, questa idea, questo arco che... Tu la conoscevi prima, musicalmente parlando? Sì, immagino, perché se l'hai contattata. No, io l'ho conosciuta alla finale del Bianca da Ponte, uh-huh. E quando ho sentito il suo progetto, l'anima che uh-huh. sosteneva la musica che lei cantava, lì ho avuto l'illuminazione, ho detto a lei chiederò di musicante, e così è stato per Giovanna Dazzi, che ho conosciuto sempre al Bianca da Ponte. Quella non la conosciamo ancora, ma magari prossimamente ci metteremo in contatto. Ma conosciamo bene Emanuele Bocci molto bene, l'abbiamo conosciuto toscanaccio. E lui l'ho conosciuto a Rovigo a una manifestazione di Amnesty, sempre di Voci per la Libertà. Sì. E poi ci siamo ritrovati a un altro Botteghe d'Autore, dove lui vinse, e il pezzo che ho consegnato a Emanuele, sia per il sound che volevo, sia per l'argomento, perché lui è molto, molto cosmico, mm-hmm. molto veramente... Io l'ho trovato un Talkie Blues, però, a mio parere... E lui l'ha reso magico, poi mm-hmm. da bravissimo rumorista qual è, messo sì. questi tocchi, questi ricamini meravigliosi. No, io ho vinto con ognuno di loro. Ah, perfetto. Si vede la tua... sei raggiante proprio, una cosa che si legge in viso. Poi è un periodo che stai ottenendo un sacco di gratificazioni, di successi e tutti ti... a cominciare con Amnesty, con Shel Simone, proseguendo poi con questo disco. Domenica l'hai presentato a Udine, mi dicevi, sì. Che è il teatro pieno. Domenica è stato un sogno proprio, è stato bellissimo, siamo ancora galvanizzati. C'erano sì. tutti e cinque? c'era, no, mancava Emanuele, che però mi ha chiamato, mi ha fatto l'in bocca al lupo, e mancava Giovanna Dazzi. Altrimenti c'era in prima fila Consuelo, c'era Rossella, c'erano chiaramente tutti i Libera Dante. Consuelo dovrebbe essere in ascolto anche, perché penso sia in ascolto, almeno mi aveva detto Consuelo, che Consuelo mi ha fatto un regalo grandissimo, veramente. Sì, una bella canzone. Diceva Lornella a proposito di questa esibizione, performance bellissima che avete fatto a Trieste, a Udine, domenica, eravate in otto praticamente. Eravamo in otto. Quindi una formazione molto allargata. Era una formazione allargata, con, c'era chiaramente Ornella e Davide, sì, certo. E c'era Marco Bianchi, che è in duo con Elsa Martin, il chitarrista, sì, compositore, insieme a Elsa Martin, sono anche loro un duo fortissimo, sono stati finalisti al Tenco l'anno scorso. Sì, certo. E c'era Paolo Forte, che è un fisarmonicista pazzesco, c'era Antonella Macchione al violoncello, e Jacopo Zanette alla batteria, e avevo poi la fortuna di avere un controcanto di lusso con la Paola Rossato, con la Paola Rossato e controcanti, rumori, rumorini e show, è stato veramente bello. Sì. Sì, sì, ma la Paola l'aspettiamo, lo sa che lei è una vita. Quindi è una bellissima cosa. Insomma. È stato bellissimo perché si è creata una magia, un'energia pazzesca sul palco. C'è stata più di una persona che ci ha chiesto se suonavamo insieme da tanti anni. Quindi è stato davvero il picco di magia, si è concretizzato lì mentre eravamo proprio in show. E tant'è che ora ci stiamo sentendo, vogliamo rivederci, vogliamo fare ancora qualcosa insieme. È stato molto bello, davvero. Fai una tappa a Padova, no? La farò, certo. Ecco. Adesso che ho presentato il disco, allora adesso cominciamo le date. Bello, veniamo. Sì, sì, sì, sì, sì. Veniamo di sicuro. Senti, parlavi di magia, ce la vuoi regalare in diretta adesso? Sì. Cosa ci fai ascoltare? Allora, vi facciamo sentire Se sarà femmina. Wow. Che è stato... Forse la canzone più vecchia, tra virgolette, di questo disco. No, non, no? È la canzone più vecchia, la canzone più vecchia è Histoire Noire. Ah, vedi caso. Perché però, la canzone più vecchia è Histoire Noire, con un arrangiamento nuovo, però, che è grazie a Mario Saroglia, che è l'arrangiatore che ha fatto un po' di tutto su questo disco. Alcuni, ha curato alcuni, sì, ha suonato un sacco di strumenti. Sì, sì, sì, più della metà dei brani. E dell'Omnia B di Milano, dove sono state appunto fatte le registrazioni. Quindi il vestito di Histoire è nuovo, ma Histoire forse è una delle canzoni più vecchie. E Se sarà femmina è già conosciuta, sì, perché nel 2011 ha vinto il Amnesty International, e quindi direi di andare. Ascoltiamo. Vivo coperta da un telo nero, ho l'anima appesa al muro da chiodi di mille anni. Respiro soltanto e prego per chiedere quel perdono, perché non sono nata uomo, vivrei senza alcun castigo, esisto soltanto che io lo voglio o no. Di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, di un altro errore testimone. Vado, cammino contando i passi, abitudine dei miei occhi, non devo vederne altri, cammino soltanto e penso, la notte dopo il suo amplesso, chissà cosa io non sento, cos'è quello che mi han tolto, ma chiedo soltanto che io lo voglia o no. Di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, di un altro errore testimone che io lo voglia o no. Di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, di un altro errore testimone. Siedo e mastico il mio silenzio, aspetto che sia il mio turno, finché non mi porge il piatto, finisco soltanto e vedo un'osi con l'ombra intorno, dell'acqua col mio riflesso, ripetersi di un mio sogno, ma dormo soltanto che io lo voglio o no. Di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, altro errore testimone che io lo voglio o no. Un altro uomo uomo, sarò madre, se sarà femmina, un altro errore testimone. Diceva tutto questo, c'è una consolazione. Arriverà dal mare, arriverà col vento, ci comprerà ogni male pagando con l'argento. Gli uomini non sanno e non devono sapere che avremo spezie d'oro in cambio di ogni male. Perciò bambina cara, sopporta e non parlare, avrai ricchezza e pace, arriveranno dal mare. Che io lo voglio o no, di un altro uomo sarò madre. Sarà femmina, se sarà femmina, in qualsiasi veste comunque è sempre qualcosa di bellissimo questa canzone. Già era bella prima, anche adesso che è rivisitata un po', insomma. E poi tra l'altro ti ha fatto vincere, appunto, come dicevi te prima, il premio, questa canzone. Questa mi ha fatto vincere il primo premio nella sezione musica del concorso Walk on Rights, che è indetto da Amnesty International, nel 2011. Che poi nel 2012 invece l'hai vinto nel di nuovo. Nel 2013, quest'anno, a marzo, giusto? Di quest'anno, abbiamo vinto però il premio speciale di Amnesty International. Con quella canzone. Con Chez Simone. Tra l'altro è buffo, perché Se sarà femmina abbiamo vinto nel 2011, dove c'è il primo album che contiene Chez Simone. Nel 2013 esce in disco Se sarà femmina, ma vince Chez Simone. Che, perché ogni anno loro danno un argomento. Quindi... Certo. Senti Rebi, io prima di continuare, io devo fare questo omaggio a questo... c'hai un fans che ti segue ormai da tantissimo tempo, da tanti anni, ed è venuto anche su ad Udine, però non ha voluto, insomma, venirti a conoscere, perché, insomma, forse un po' timido, forse non lo so, insomma. Comunque mi ha telefonato anche 2 giorni fa, dice: ma è vero che viene Rebi di Valle lì? Sì, sì, ho detto: guarda, stai sicuro che è lì? È vero, Maurizio? Ha chiamato sì, anche sì, te? Sì, ha chiamato anche me, era... sì. Ci ha chiesto 2 o 3 volte, ma viene sicuro, è sicuro che viene stasera. Lo vogliamo salutare, sì, quindi lo te lo faccio anche sentire a voce, perché, insomma, Luca si chiama Luca Belzebù. Luca, ci sei? Pronto, buonasera. Ciao Luca. Buonasera a tutti, sono un po' emozionato. Sì, hai una voce un po' metallica, se devo essere sincero. Ma che si chiama? Scusa, Luca. Luca è il cognome? Luca Belzebù. Ah, Belzebù. Io veramente sono molto emozionato, perché Rebi rivale per me è la numero uno in assoluto. Da quanto tempo è che la conosci? Ma io la seguo ormai da anni. Cerca di capire chi sei, ma non riesce. E per forza ho subito un intervento l'altro ieri alle corde vocali. Ho questo problema. Questo è la vittoria. Però posso farmi riconoscere. Di dov'è? Cantandole una cosa che verrà un po' mono. No, perché... Di dove sei, Luca? Sono di Udine. Di Udine. È uno scherzo. Ma... Credi che senti? Sì, ti sento. E però capisco solo una cosa: perché fai Belzebù di cognome? Belzebù. Io non capisco bene. Allora, il mio secondo nome. Mefisto. Non ho capito, non si capisce cosa dici. Il mio secondo nome. In maniera corretta, per cui i miei genitori hanno scelto questo nome. Dai Rebi, ti devo cantare una canzone per farmi riconoscere. Ti canta una canzone, dice, per farti riconoscere. Cantala. Voce. C'è qualche cosa tra realtà e illusione, un'anima tra i miei vorrei. Ma chi è Amelie? Dai, Amelie, ti legno. Senti, te la torno prima o dopo, sappilo che te la torno. Ciao Paola. Mi hai fatto prendere paura, ma sei fuori. Paola, parla vicino amica. Questa voce se la sognerà secondo me per 2 settimane. No, guarda, no, sai che io invece credo che dopo tutti i tour de force che abbiamo fatto ultimamente, e tu lo sai perché c'eri, credo che nei prossimi giorni dormirò bellamente proprio. C'è un mito, Meli. Questa è un'altra collaborazione, sì, di un altro genere, però so. Questa è un'altra bella collaborazione. Puoi dirlo, Rebbie. Beh, Amélie, che è il nome d'arte di Paola Mameo, che è un'interprete, una cantautrice di Milano, e abbiamo scritto a tre mani in realtà, insieme anche a Giovanni Rosina, che salutiamo, il brano Col naso all'insù, che l'anno scorso vinse il premio Lunezia, quindi lei è un'interprete stratosferica, è una macchietta, come si è ben capito, e ci ha seguito a Milano, all'Isola, è venuta a vederci, quindi una cara amica. È vero tutto ciò, Revi? Sì, che è vero. Revi, scusa, Paola, è vero tutto ciò quello che hai detto, Revi? Sì, guarda, è verissimo, infatti io sono onoratissima di aver collaborato con lei, ci ho tenuto particolarmente per il brano che poi abbiamo presentato a Lunezia e che poi appunto ha portato veramente la più grossa soddisfazione per me in quel momento, quindi la ringrazierò sempre, poi lei è disponibilissima, ma anche dal discorso che ha fatto prima quando ha detto che tra gli emergenti ci deve essere sostegno, collaborazione, mai rivalità, è una cosa veramente importante. Lei l'ha sottolineato più volte, l'ha dimostrato anche appunto chiamando emergenti nel suo album, e anche quando anch'io ho chiesto la collaborazione lei subito si è resa disponibilissima, quindi è anche aperta a collaborare con persone che fanno magari un genere completamente diverso dal suo, è molto disponibile. Addirittura io quando ho dovuto scegliere un nuovo singolo ho voluto sentire anche il suo parere, l'ho asciugata pesantemente per una settimana, e ha detto senti questo pezzo secondo te, voglio questo qui, e per me i suoi consigli sono veramente preziosissimi, per cui la mia stima per lei è veramente ai massimi livelli. Beh, è reciproca. È stato organizzato circa 2 mesi fa questa cosa, Non ti buttare sul metal devil adesso. Sembrava i Rockets, ti ricordi i Rockets? Sì. Ma poi vi ha fatto morire perché ha detto, ma perché Belzebù? Diciamo, esisto di secondo nome. Forte. Vabbè, questa fresciata dovevamo fare. Sì. Bella. Paola, noi ti aspettiamo, lo sai, col disco nuovo, va bene, 45, insomma, il singolo è già uscito e il disco nuovo ti aspettiamo qui. Sì, assolutamente, sai che lo so. Vincerebbe ogni promessa. Mi chiamano Ruffiano probabilmente. Però io a questo punto ho paura, quando ci sarò io cosa farà Rebbie. E fai bene. Quindi non avvisatela, sbannate le Facebook. Va bene, Paola, ti salutiamo. Ciao, Meli. Un bacio grosso a tutti, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao Paola, ciao, a prestissimo, ciao cara, ciao carissima, ciao. Altra amica di questa emittente. Hai visto, Revi? Non te l'aspettavi, No, non me l'aspettavo, ma quando ho capito che era Meli mi sono spiegata tutto. Senti, già che siamo in tema così un po' allegro, facciamo ascoltare una canzone, quella di Emanuele Bocci. Sì. Allora, si intitola Stelle per Farfalle. Stelle per farfalle. Sì. Ci dici qualcosina? Stelle per Farfalle è un pezzo che alla presentazione dell'album domenica abbiamo, non dico dedicato, ma l'abbiamo associato a Margherita Hack. Per il senso, certo, cosmico, non soltanto perché era la signora delle stelle, ma per il suo pensiero sul rispetto verso le altre creature e anche pensando a quanto siamo presuntuosi noi uomini. Emanuele Bocci era l'uomo perfetto per poter esprimere questo concetto, perché lui è invece molto rispettoso e molto, molto karmico, molto spirituale, quindi anche lì una scommessa che ho vinto. Quindi direttamente da Campagnatico, Emanuele Bocci con Stelle per Farfalle. Trovo dentro questa scatola blu, illuminata, io suppongo, da qualcuno dall'esterno, con la forbice bucato il mio soffitto di cartone. Così cosa pensava di aiutarmi a respirare, di aiutarmi a respirare. E quell'idiota, la mia polvere di volo sulle dita, tanto qui che non mi muovo non sarebbe più servita. E cosa sbircia? Ma dove vuoi che vada? Ma dove vuoi che vada? Che tanto avevo ancora solo poche ore, poi finivo con il sole, come tante cose belle. E non importa, cercherò di fare finta di non essere in prigione, che quei buchi siano stelle. Mi trovo dentro questa scatola blu, solo più piccola del mondo in cui mi hai catturata tu. Chissà se un essere più grande sta spiando le tue mosse. Sarebbe bello poterlo confermare, poter verificare. Che in un'ottica più ampia che si chiama eternità saremo punti così piccoli che sembreremo uguali. Sarebbe bello potertelo spiegare, poterti far capire. E invece ancora solamente poche ore, poi finisco con il sole, come tante cose belle. E non importa se son buchi sul cartone, questa è l'unica mia notte, fingerò che siano stelle. È stato un giorno ricco di soddisfazione, non mi posso lamentare, che fortuna c'era il sole. E adesso zitta guardo i buchi sul cartone, questa è l'unica mia notte sotto 100.000 stelle. Ferma, guardo i buchi sul cartone, sono 100.000 stelle, sono stelle per farfalle. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Prima di lasciare alle considerazioni di Maurizio Rebi, ti porto i saluti dei Diversamente Rossi. Oh, grandissimi, che piacere, ricambio. Ecco, quindi saranno in ascolto anche loro, una band di Napoli, della zona di Napoli. Sì. Sono quattro ragazzi simpaticissimi, tra l'altro, che ho avuto modo di conoscere l'anno scorso al Bruno Lauzi, e spero sempre di averli anche loro qui. Mi hanno promesso che verranno col disco nuovo, quindi casomai te lo farò sapere. Sì, fammelo sapere. Quello è uno di un gruppo con il quale vorrei fare qualche cosa. Sono bravissimi, guarda. Lo so bene, lo so bene. Quindi Emanuele ha preso il pezzo di Rebi e l'ha trasformato a sua invenzione, trasformato, l'ha un po' curato, l'ha arrangiato, ripeto, secondo me è un talking blues molto americano, ma ci stava benissimo. Emanuele è molto americano, lui ama particolarmente. Emanuele ha preso il pezzo chitarra voce con quello che era il mio ritmo proprio semplice, e l'ha veramente trasformato. Sì, l'ha fatto suo al 100%. Tra l'altro, lui, dicevo prima, rumorista. Sì. Pensa che la sezione ritmica, le fruste. Fa tutto lui. No, ma sì, lui ha suonato tutto. Ah, perfetto. Ecco, Emanuele Boce ha suonato tutto quello che tu senti: basso, chitarra, slide, tutto. Tutto quanto. E le fruste, non penso che abbiano mai visto una batteria. Lui ha suonato i pantaloni, le gambe, i cartoni, il pavimento. Ha suonato. Un basket, qualsiasi... praticamente. È venuto via con una macchina carica di rumori. Il toy piano di suo figlio, cioè tutti i giochetti e lo shaker omeopatico. Tutto quanto ha fatto. Sì, qui c'è una fialetta dove ha messo delle pastiglie, quindi lui per quel rumore. Infatti lo shaker omeopatico. No, lui è sensazionale. Non sapevo questo. L'ha riempito di questi rumori, di questi sapori stratosferici, è stato bravissimo. È decisamente, ha dato un altro colore. Ci siamo molto divertiti, poi è venuto a Milano, quindi si è fermato dei giorni, abbiamo lavorato insieme. È un grande uomo. Perfetto, benissimo. E un'altra perla dell'album, una delle cinque perle degli emergenti, certo. Praticamente. Quanto ti rimpiangi di non aver scritto La costruzione di un amore? Non lo rimpiango. Cioè, se potessero dirmi esprimi un desiderio, devi scrivere una canzone che conosci già, sarebbe quella. Ma sarebbe quella interpretata dalla Vanoni. Non da Fossati. No, no, Fossati come scrittura a livello di testo è il migliore. Il migliore. La musica è straordinaria, ma l'interpretazione ha fatto tutto. Questo pezzo qua cantato dalla Vanoni è penso il pezzo più bello del mondo. L'ho scoperto per caso nella tua dichiarazione. Dove stai andando a sgarfare? Dove stai andando a curiosare? Io ogni tanto cerco qualcosa di te, insomma, perché insomma sei una persona cara, lo sai, quindi è giusto. Vi ricordo, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo momento. Sono le 21:40, siamo assolutamente in diretta e siamo assolutamente felici di avere Rebi Rivale qui in studio in acustico con la sua band. In più c'è Rossella Aliano alle percussioni. E poi vi ricordo che questa è la voce di Agostino Spalore, che assieme a Maurizio Calzavara vi regala l'ennesima chicca di questi live che facciamo quasi ogni sera, insomma, della settimana. Sempre li facciamo, perché la musica dal vivo è la cosa più bella che esista. L'abbiamo ripetuta tante volte e la continuiamo a ripetere. Ancora meglio stasera che c'è Rebi, che la musica dal vivo è la sua fonte basilare di tutto. Sì, sì, sì. Live è una credo ci sia anche Paola Rossato in ascolto. Sì, ciao Paola. Può essere. Ha messo un mi piace. Dal punto di vista tecnico, Ornella prima mi parlava della differenza tra le 8 persone del teatro e le 3 o 4 persone. Beh, quelli di... di solito tieni presente che, e io questo devo dirlo, Ornella e Davide, questo è fondamentale. Ornella e Davide hanno fatto la fatica più grande nella preparazione di questo live di domenica, perché tu hai detto per me di Ornella e Davide sono vestiti i miei testi come gli abiti migliori, quindi sì. Beh, già detto questo, tu pensa che loro non lo sapevi questo? Non per quella che è stata la presentazione di domenica scorsa hanno dovuto dimenticare tutto quello che abbiamo fatto insieme sempre per 3 anni e che continueremo a fare a partire da questa sera in poi, per chiaramente sposare il loro contributo insieme a altri 5 elementi, certo. Quindi, perché poi vabbè, Paola era alle voci e quindi loro sono stati bravissimi veramente. È chiaro che la nostra formazione è più intimista, che ottimizziamo gli arrangiamenti tra contrabbasso con l'archetto piuttosto che magari io batto con la chitarra, sono diversi. Sì, la usi come percussione la chitarra. Anche. Quindi cerchiamo di ottimizzarlo e io sono convinto del fatto che comunque sono emozionanti, anche perché è stato il riscontro sulle nostre performance che ci ha portato poi ad arrivare a San Giorgio, al Teatro San Giorgio di Udine, a chiamare altri musicisti straordinari veramente. E sono due cose diverse. L'importante è che in entrambe le versioni quello che arriva, il contenuto che a me preme, il pugno allo stomaco, arrivi. Non per voler male a qualcuno, ma no, il nostro obiettivo è sempre un bel pugno allo stomaco. Che fa bene qualche volta il pugno allo stomaco, nonostante tutto. Sì, certo. Apre. Certo. Apre molto. Devastante, insomma. Senti, Rebi, ci vuoi fare qualcosa dal vivo adesso? Sì. Aspettiamo Rossella che non... vedo. Ma possiamo anche aspettare qualche minuto. Sì. Un minuto. Ok. Sì. È un posto, volevo chiederti una cosa. Abbiamo prima parlato. Johanna Pavlik, che è una violoncellista straordinaria, che ha dato un colore bellissimo al disco. Sì. Allora, non ti correggo per fare la maestrina, ma perché anch'io mi sono fatta dire Johanna Pavlik. Ah, perfetto, vedi. Johanna è stata una delle persone, diciamo, insieme a Mario Saroglia, c'è stata Johanna che ha suonato nel disco, che ha sicuramente portato un colore straordinario. Il violoncello nel mio album è portante. Sì, è molto portante. Pezzi, e lo è stato anche domenica al San Giorgio con Antonella Macchione. E Johanna è una persona straordinaria, una persona che io continuo a sentire, che apprezzo molto, e ha messo l'anima nel violoncello. Io la guardavo suonare e dicevo mamma mia che bello, perché non ci sta solo lo strumento, non ci sta solo il suono, c'è un pezzo di anima sua qui, certo, dentro. Certo. E come mai la scelta del violoncello, che è un suono a tratti anche molto decadente, ma per questo molto bello, molto che ti prende, ti fa anche avere dei dubbi musicali nel senso positivo? Il violoncello credo che sia veramente un mezzo di tranco, cioè un mezzo di trasporto. Una specie di karma, praticamente. Non so neanche spiegartelo. Io tra tutti gli strumenti ad arco credo che sia quello che preferisco. È il suono quello che rimane veramente sulla pancia. Ah, esattamente. Io volevo quello. E Johanna è riuscita a farlo in una maniera spettacolare. Io che sono un vecchio rocchettaro lo amo, perché sentivo i Mezzi Star anni fa che lo utilizzavano. I Mezzi Star era un gruppo americano. E spesso volentieri nell'ambito dell'indie americano di un certo tipo, viene spesso utilizzato il violoncello, perché il violoncello dà un certo colore, come tu hai detto, anche nella musica rock soprattutto. Anche poi tra l'altro si è prestato anche per un brano rock, perché Vuoto Rendere ha dei picchi duri, e il violoncello è stato quasi uno strumento percussivo in quel momento lì. È stato molto bello, molto versatile, molto, si è adattato a tutto, e lì devo dire sì, c'è la bravura dell'esecutore. Chiaro. Altro amico che ti saluta, Revi, questa volta l'ho riconosciuto di persona, si chiama Paolo, quello che ti ha invitato giù in Emilia Romagna. Sì. Abbiamo suonato per l'ora a Rolo. Quindi ciao Paolo Parmigiani. Sì. È in ascolto anche lui, ti saluta. Ciao Paolo. Cosa ci proponi adesso? Vi facciamo un valserino. Wow. Il valzer dei veleni. Ottimo. Correte, venite, correte da me, mi basta un bicchiere per mettere in moto la lingua e zittir la coscienza di tutti, so tutto, chiedete, chiedetelo a me, che vedo, che ascolto i peccati di questo paese, sì falso e borghese, a meno sante che puttane. Un tempo che oggi è maestro, l'avete detto di me. Un tempo che oggi è maestro, è successo anche a me. E sapeste, mio caro, la vita che c'è fra quelle lenzuola che vi coprono stanco la sera. Ha poca voglia la signora e tante grazie al buon Dio che sa tutto e compensa così le vostre menzogne, pagate di fretta e di voglia. Nessuno sa, nessuno sbaglia, nessuno sa, nessuno sbaglia. E mio figlio ha 30 anni, un padre in ogni città, ripudia sua madre che non l'ho difeso dal male, dal vostro parlare lontano dalla verità. Un tempo che non ho scordato, l'avete fatto con me. Vi rendo veleno e parole per il dolore che c'è. E nascondo le orecchie, so come si fa, e aspetto all'incrocio che passino le confidenze, i segreti rubati di spalle a un caffè. Un tempo che oggi maestro l'avete fatto con me. Un tempo che oggi maestro è successo anche a me. E correte, venite, correte da me, mi basta sapere che il dubbio farà il suo dovere, potenza delle parole, avanti, avanti, ne ho per tutti, confidenze, indiscrezioni, venite, venite, segreti, chiacchiere, venite, venite. Fatti altrui, il tempo che avete sporcato ritorna così. Il tempo che mi avete rubato ve lo torno così. Sempre magico, sempre magico. Maurizio. Sì, un pezzo molto bello anche questo. Io sottolineerei una cosa, la colorazione pennellata che ha fatto Ornella di questo brano, molto circense in alcuni momenti, quasi greco, una danza quasi la danza di Zorba, possiamo risalire anche a quella. Io ho sentita così una serie di flash, io le espongo in questo momento, mi sono venuti in mente, però questa colorazione, questi tocchi leggeri con le chitarre, con le corde a nylon, sono nylon le corde a nylon, la chitarra classica, danno una colorazione un po' particolare e danno il là a tutti gli altri strumenti, secondo me, in questo pezzo. Beh, quando costruiamo un arrangiamento in tre, poi succede così, succede che si cerca di veramente di ottimizzare anche gli spazi dove finisco io, entro Ornella, esattamente. Davide sostiene, poi si ferma, poi per noi sono importanti le pause, per esempio, certo. Quindi scende tutto, poi pian piano rimonta, quindi sono scelte, perché poi sono scelte. Poi c'erano le percussioni velutate di Rossella. Rossella è magica. Che dava i suoi tocchi. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, Rebbi, di cambiare ancora completamente dallo spazio a tutti questi cinque emergenti, certo, insomma, che ti hanno accompagnato in questo disco. Sono alle 21.50. Vi ricordo, anzi, il numero telefonico per i vostri sms è il 346-2320-033. Questa sera sei veramente, c'è molta gente che ti sta ascoltando. Anche Sara, che ci aspettava per lo spritz. Ah, sì, la saluto, l'ho conosciuta a Milano, ma la saluto. Ciao Sara. E, insomma, questa è la canzone di Consuelo. Consuelo, pezzo cuore. Pezzo cuore. Questa è la canzone che ho scritto, che ho passato a Consuelo. Ti racconto un aneddoto per farti capire come lavoriamo io e Consuelo, che abbiamo collaborato e collaboriamo ancora e lo facciamo spesso. Consuelo mi ha chiamato, mi ha detto dimmi che accordi devo mettere, dimmi che cosa vuoi, mi ha detto che emozioni devo suonare. Questa è stata la domanda di Consuelo e io ho risposto: guarda, prima ho fatto tutta la mia risposta passando attraverso delle emozioni che avrei voluto, e mi ha detto ok, grazie, clic, giù il telefono, mi è arrivato questo arrangiamento straordinario. È molto brava al piano, insomma. Io dico sempre che Consuelo suona il pianoforte con lo stomaco. Sì, è vero. E sono felicissima. Però è una bella persona anche. No, lei è spettacolare. Mm. Sì. Poi c'ha un'amica carissima, mi ha fatto una sorpresa domenica sera, te l'ho detto. Sì, me l'hai detto. E quindi questo pezzo, che si intitola Non voglio scrivere d'amore, che è la ghost track del mio album, è stato pianisticamente arrangiato da Consuelo Orsinger, che saluto e ascoltiamola. Silenzio assordante, la casa in tua assenza è soltanto riempita di tempo, scandito è una piccola luce che serve a trascrivere il mio esperimento di donna che scrive di altri evitando un preciso argomento. Qualcosa che vivo e non scrivo, per scaramanzia, così non mi confondo. Frasi nascoste, trascritte finanche laddove memoria non può ricordare. Qualcuno aspettava da sempre di averti, poterti vestire. Qualcuna è una tunica bianca spogliata che resta a dormire. Ti osservo, ti rubo, mi incanto. Sospirano gli occhi di muto guardare. Non voglio scrivere d'amore, perché per farlo bene lo devo pensare. Un sogno non si decide, ci lascia il suo ricordo, non la stessa emozione. Allora dire l'amore sarà cercare perle ed infilare parole. Raccontare l'amore e appendere una tela invece di colorare. Cantare ed amore, ho sempre pensato che fosse per chi ha disavanzi di spazio, il trucco da aggiungere se l'espressione che vedi non basta, e aver tra le mani la creta e cambiar con le dita una faccia, uno spillo fermar la farfalla, un'idea differente della meraviglia. Non voglio scrivere d'amore, per farlo bene lo devo pensare, un sogno non si decide, ci lascia il suo ricordo, non la stessa emozione. Allora dire l'amore sarà cercare perle ed infilare parole, raccontare l'amore e appendere una tela invece di colorare. Assenza soltanto riempita di tempo. Non voglio scrivere d'amore perché per farlo bene lo devo pensare. Un sogno non si decide, ci lascia il suo ricordo, non la stessa emozione. E allora dire l'amore sarà cercare perle ed infilare parole. Raccontare l'amore è appendere una tela invece di colorare. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Consuelo ci ha messo il cuore, lo stomaco, come dici tu, ma tu ci hai messo un cuore grande in questi testi. Insomma, tutte le canzoni hanno un significato enorme e questa è veramente toccante, posso dire così. Grazie, ti ringrazio. Basta leggere, insomma, io ho letto quella rima lì, quella terza strofa praticamente, ma è tutta bella, è una poesia proprio, proprio una poesia questa qua. Ci voleva proprio la mano di Consuelo, insomma. Eh beh, sì, sicuramente, sì, sicuramente. Per queste parole, sì. E il piano soprattutto, il piano che ha un certo senso, molto senso, molto colore, vero Ornella? Ornella annuisce, Ornella. Sì. Non parla ma annuisce, sì. Assolutamente. Mi ha appena detto di sì. Allora, siccome è una cosa serata speciale questa, Rebi ha deciso di fare una mezz'oretta in più, sarà in vostra compagnia. Ha deciso l'Ornella. L'Ornella ha deciso. Lo sto scherzando, comunque, a parte gli scherzi, ascoltatori, Rebi Rivale sarà qui fino alle 23 di questa serata. Purtroppo Renato non riesce ad essere qui presente questa sera con il suo programma e quindi Rebi ci concede, anzi, Ornella, ci concede mezz'ora in più, quindi avremo modo di ascoltare ancora altre canzoni. Adesso ci fai una cosa indietro con il tempo o vuoi che continuiamo ancora un po' a parlare? Come preferisci, possiamo fare entrambe le cose. Facciamo qualcosa indietro con il tempo, giusto per ricordare i fasti di un anno e mezzo fa quando sei passato. Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora, noi che abbiamo, come chi ci segue sa, dei personaggi insieme a noi che portiamo sul palco. Uno di questi personaggi, insieme ad altri, che poi se abbiamo tempo ti, certo, ti porto qua in stanza insieme a noi. Volentieri. Uno di questi personaggi è Edward Hyde, ovvero Mr. Hyde, che è la storia chiaramente tratta dal romanzo di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, solo che come protagonista qui abbiamo messo il male, quindi Mr. Hyde. Che è contenuto nel primo album, appunto, Rebi Rivale del 2011. Quindi direi di andare con Mr. Hyde. Vengo alla luce, un eufemismo, perché non vedo il sole mai. Sono la notte del suo specchio, perché mi cerca. Edward Hyde. Mm-hmm. indosso gli abiti dell'altro, perché sta stretto dentro i suoi. Meraviglioso quest'incesto, e nel suo sangue c'è il mio sangue ormai. Non ha coraggio quel dottore che mi rinchiude dentro sé, per non vedersi nel suo male, per non sentire quel che invece c'è. Ma che gusto sentirlo pregare, implorare il Signore, per poi bestemmiare e gridare il mio nome ingoiato a sorsate, vuotando un bicchiere di sale, di sale. Ballo che ballo infernale, frenetico istinto di questa natura, guardare il dolore, danzare, danzare sul filo affilato di nervi e di schiuma. Alternativa alla coscienza, al perbenismo degli eroi. Il mio piacere è la risposta, sventro la vita e non mi sazio mai. Come vigliacco quel dottore che vuole quello che non fa, ha reso firma le sue scuse, poi mia per sempre la sua metà. Che ardore sentirmi arrivare giù lungo le vene, che spasmo di corpi, che trasformazione, assolto per sempre da quella pozione di sale, di sale. Che forza, che musica il male, che stupro allo stomaco quello che muove. Che importa se il prezzo è che devo morire, la forca è un delirio che fa dondolare. Come la notte che ritorna, non può morire. Edward Hyde. Già all'epoca aveva un arrangiamento molto complesso il pezzo, e qui l'arrangiamento è molto molto cambiato rispetto all'epoca, chiaramente queste versioni sempre più diverse, giustamente, perché dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, quando Rebby viene qua cambia totalmente, fanno come i Pearl Jam che cambiano pezzo disco dopo disco. Stai parlando rispetto all'album tu? Sì, secondo me l'album c'è un arrangiamento diverso. Beh, l'album ha un montante di archi. Esattamente, credo, qua però credo anche di qua aver dentro messo 1.500.000.000 di archi dentro l'album. Ma qua dentro stasera l'avete totalmente cambiato, ma totalmente, proprio è parentesi chiaramente, però in questa dimensione è totalmente cambiato al 100%. L'importante è che arrivi. È arrivato subito, eccolo, immediatamente. Ecco. È quasi, quasi mitteleuropeo, secondo me. C'è qualche odore dell'est dell'Europa. Io lo sento questo, così. Vuoi fare la sintonia? Dimmi. E poi il tuo violoncello dà quel tocco. Sì, lo sento verso l'est europeo, secondo me, in questo pezzo, in questo momento. Bene. No. Ma allora, io l'ho sentito così, chiaramente 22.03 dal vivo, l'ho sentito proprio dal vivo. Bene, che abbia okay. che venga percepito, sì, poi sì, a seconda anche del filtro di ognuno, della cultura musicale di ognuno, chiaramente, che mi sembra che la tua è molto ampia, quindi sì, però vedi, vamo, cioè, come tutte le cose puoi sentirla in una certa dimensione, in un certo momento lo puoi sentire, non so, Gabrigliano alla Peter Gabriel, un'altra volta lo puoi sentire Rocchettaro alla Keith Richards, per dire i due estremi, certo, anche certo, se non sono estremi, la musica è tutta uguale. Il grande mondo della musica, la grande idea musicale è sempre la stessa. Allora, questo è il tuo secondo disco. Nel terzo disco, Rebby, ancora ricercherai altri artisti? Non lo so, perché il terzo disco ti manca la Consoli? La Consoli? No. Ti manca Nathalie? Ti mancano diversamente Rossi? Ah, beh, sì. Quindi... No. Allora, guarda, il sogno o comunque la volontà di continuare le collaborazioni resta vero. Uh-huh. Con i diversamente Rossi, io credo che scherzando e ridendo ce la siamo buttata un paio di volte. Abbiamo avuto modo di conoscerci e di suonare sugli stessi palchi, se non altro. E per quanto riguarda il prossimo disco, è tutto in divenire. Adesso siamo nel pieno dell'uscita di questo. Che certo. Non hai neanche minimamente allontana l'idea di pensare a qualcosa. Se c'è, fra 4-5 anni. Sì. Intanto si continua a scrivere e a mettere da parte, certo. Poi vedremo. Si dice che il terzo disco sia il disco della maturità. E l'hanno detto anche a me, sai? Della però... maturità assoluta. Vedremo. Già, gli altri due erano maturi, secondo me. No, cosa dici? Siete voi i giudicanti. No, io ho trovato una diversità, molto più impegnato forse il primo. Il primo è c'è una cosa che ognuno di due ha e l'altro non ha. Il primo è ingenuo sotto il punto di vista degli arrangiamenti. Sono arrangiamenti che ho fatto io. La famosa frase non mi rappresenta, ti ricordi come l'hai detto? Ma allora, ci sono delle cose che non mi rappresentano più. Il primo album era l'album dell'ingenuità. Io ho raccolto quello che avevo scritto da tanti anni indietro fino a quel momento e l'ho messo insieme senza neanche sapere come funzionava questo mondo. Non sapevo neanche se avrei continuato a fare questo. Il secondo album c'ha una complessità, una struttura negli arrangiamenti che è niente a che vedere col primo. E mi sono concessa anche di divertirmi con la musica in quest'album qua. Mentre all'inizio pensavo che dovesse essere solo impegno, solo contenuto importante, serioso. E tant'è che non ricordo che ci siano brani allegri, spensierati. Anche Ali, che è leggero, è comunque malinconico. In quest'album qua, con Stelle, che comunque ha un duplice significato, col Calesse delle favole, con Iride, ho avuto brani più leggeri che mi sono regalata, nel senso che li ho messi dentro perché fanno parte della vita anche questi momenti qua. E quindi è sicuramente più completo questo. Certo. A me è piaciuto molto anche per aprire un po' il discorso l'Aquilone in questo disco, dal punto di vista allegria, così insomma. L'Aquilone è uno stampo cantautorale degli anni che furono, però è anche come contenuto. L'arrangiamento incalzante, in questo caso di Mario Saroglia, tutto di Mario Saroglia è stato indovinato. C'è anche l'armonica qua di Mario Saroglia. C'è la melodica. Ah, melodica, no? C'è la melodica. Sembrava un'armonica, però. È una melodica pesata. Ecco, perché io l'ho letto sul libretto, non riuscivo a trovare l'armonica. Ma come non c'è l'armonica? No. Però era questa la melodica. È una melodica pesata che lui ha usato spesso in tantissimi arrangiamenti. E violoncello, chitarra. Ah, non c'è niente. Quindi molto scheletrico. Molto scheletrico, però è molto incalzante. Quindi è molto bello, molto bello. Ci racconti un po' di questi Luna e un quarto? qui presenti. C'è Luna e un quarto. Io ai Luna e un quarto devo... Un settimo, ecco. Devo dire un grazie veramente grande. Il Luna e un quarto è l'unico gruppo che è rientrato in studio due volte. Perché la prima registrazione abbiamo avuto dei contrattempi, abbiamo dovuto rifare delle cose, quindi sono stati disponibili a rientrare, sono in sette, a trovare tutti delle giornate disponibili, a tornare in studio. L'hanno fatto con una generosità e con un'accoglienza incredibile. L'hanno fatto anche in un momento in cui ero stanca e avevo dovuto riprendere in mano delle cose. Ho avuto questo ritardo che tu sai nell'uscita dell'album, quindi avevo dei dubbi, ero veramente stressata. E loro mi hanno dato una forza pazzesca, tutti a loro modo. Dai Rebby, dai che ce la fai, ma dai, vedrai che va tutto bene. Loro sono stati lì nel momento esatto in cui dovevano essere lì. E io a questo glielo devo, gliel'ho detto e non mancherò di dirglielo se ce ne sarà l'occasione, perché sono stati molto importanti per quello che è stata poi la mia grinta, la mia voglia di portare avanti, di finire e di portarlo in giro. Quindi mi hanno preso in un momento delicato e mi hanno davvero aiutato tanto. Quindi ti ci volevano insomma in quel periodo. Sì, poi è un gruppo straordinario, sono sette ragazzi che si conoscono... abitate dalla nascita e quindi hanno una compattezza e un entusiasmo, e poi dal vivo sono un portento, cioè dal vivo tirano giù le piazze anche quando piove. E quindi ho cantato con loro quando hanno presentato il loro album che è uscito da poco, ho cantato il Calesse assieme a loro, è stato divertentissimo, è veramente un gruppo affiatato come non ne ho visti tanti. Già che ci siamo, Davide, ti facciamo parlare anche un po' te, insomma. Sì. Parlavamo fuori diretta prima, ti ricordi quando sei arrivato e ti ho chiesto ma quanta presenza tua c'è in questo disco? Tu mi hai detto tantissima rispetto al primo. Parla vicino al microfono, non per cortesia. Non c'ero completamente nel primo, sono arrivato subito dopo, all'indomani dell'uscita del primo album. Ho conosciuto Rebby e Ornella, e in questo invece l'ho vissuto sulla pelle dall'inizio alla fine. E con molta paura perché volevo essere all'altezza, però è stata un'esperienza totalizzante, veramente. Ti è piaciuto molto? Molto, molto interessante. Ormai c'è anche amicizia, non solamente il rapporto di lavoro, insomma, con Rebby. No, di lavoro non c'è mai stato. C'è mai stato no. Di lavoro? Sì, sì. E penso che Rebby si sia innamorata del sound dei Luna e un quarto, che sono sette energumeni dall'animo gentile. Ed è ne scaturito un pezzo reggeggiante che non abbiamo toccato più di tanto rispetto alla struttura iniziale, però abbiamo cercato di dare proprio questo tsunami sonoro, di essere poderosi. Bello questo tsunami sonoro. con la volontà comunque di far ballare. Infatti è il primo pezzo che noi piazziamo nella scaletta dei concerti ed è quello in cui la gente inizia a muoversi. È bellissimo, sì, ci è piaciuto molto. Bene, e quindi è piaciuto a te anche a collaborare, insomma, in questo sì, disco? Sì. Perché non sei solo in questa canzone comunque nel disco. Ho suonato il contrabbasso. Davide è il contrabbassista. Sì, sì, no, ma dico, lui come persona, come artista, come musicista, c'è in tutto il disco. Sì, ho registrato quasi tutti i pezzi, sì, sì, sì. Poi il sogno segreto è quello di fare un pezzo, di musicare un pezzo scritto da Rebby. Ma ne parleremo. Questo non lo sapevi? No, no. Sei confidato, hai visto? No, però quei Luna e un quarto. Sì, quei Luna e un quarto. Ma però... ti stai esponendo che loro non lo sanno e dovrei giustificare questa uscita? O... Mi sto esponendo. Beh, io sai che scriverei proprio immediatamente, figurati. Loro sono bravissimi, tra l'altro, veramente. Ma... Saluti da Francesco Favero e da Danilo Testa. Ciao Francesco, ciao Danilo. Allora ci ascoltiamo questa fermata di tante stazioni, insomma. Eh sì. Ma ti sei fatta ci sei scritta tutte le tappe che fa il allora, treno? Io, tu lo sai che nasco Veneto. Sì, sì. Conegliano. E nasco a Conegliano. In un viaggio di ritorno. Un piccolo paese vicino a Conegliano. Beh, io nasco a Conegliano, ma poi vivo a Francenigo. È Francenigo, esatto. Francenigo, e questo ci tengo a dirlo. Loro non ne possono più di sentirlo, ma è giusto perché Francenigo, Ale Francenigo. Ale. È anche la scuola di calcio. E certo. Vero, non lo sapevo. Sì, Io ho tirato una battuta. Ma... Forte. Sono sì, forti, sì. Perfetto. Salutiamo tutti i fan, la squadra di calcio. E quindi nei miei viaggi di ritorno da Milano, avevo sempre queste tappe da Mestre, non so, da Milano a Mestre, Mestre da tappe. E una volta più di un'altra avevo proprio voglia di tornare a casa. Adesso chiaramente casa mia è Udine. Certo. E quindi passo queste stazioni che conosco a memoria, perché anche nella mia gioventù erano quelle che mi portavano verso Venezia. E quindi arrivo verso casa ed era giusto consegnarlo il Luna e un quarto, al di là del groove, perché volevo quel groove che loro hanno, ma anche perché sono friulani, tra l'altro vincitori dei premi Friul in passato, quindi insomma erano, oltre che titolati per fare questo pezzo, erano quelli che in assoluto potevano metterci il colore più azzeccato. Quindi il Luna e un quarto hanno arrangiato il Calesso delle Favole. Treno regionale 11:88 proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Trieste Centrale, è in arrivo al binario 4. Ferma Mogliano Veneto, Treviso, Conegliano, Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine. Tornare a casa è sempre un viaggio illuminante. Tutto ci scivola all'indietro riducendo ad ogni metro le distanze. Passa una zingara che lascia il suo biglietto, dove c'è scritto, riassumendo, dammi soldi, ho 15 anni e un figlio letto. Questo treno è una vetrina delle facce, questo treno è una Babele delle lingue, questo treno è il mio Calesse delle Favole. Udine. Thank you. Il movimento sposta cose indescrivibili. Andare verso qualche cosa sembra avvolgere quei fili più invisibili. Il controllore non mi guarda neanche in faccia. Biglietto prego, la ringrazio, poi prosegue lungo tutta la carrozza. Questo treno è un videogioco senza armi, caleidoscopio che moltiplica gli sguardi. Questo treno è il mio calesse delle favole. Udine. Telefono che sembra un'astronave, risponde un uomo ad un volume esagerato per capirsi nel rumore. Torno da sola ma mi sento come mille, sarà che il viaggio verso casa è come un film che ci racconta cose belle. E questo treno è una valigia di colori, questo treno è un mercatino degli odori, questo treno è il mio calesse delle favole. Udine. Ci vedo come ferroviere, sai, capostazione in divisa. Hai visto le foto di domenica scorsa a teatro? Hai visto la Paola Rossato vestita da capotreno? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ho visto anche quella che avete messo in concorso. Quale votare, quella delle tre? Cioè, roba di Paola, poi io non c'entro. Ma ci sei tu, c'è Rossella. Certo, a mangiare civapcici. Sono piaciuti da morire, Rossella. Sì. Caro Agostino, adesso citiamo i protagonisti del 1 1/4, tutti i protagonisti. Certo. Perché il pezzo che è molto scarregheggiante, molto movimentato, molto da band. E adesso citiamo uno alla volta, dai, cosa dici? Beh, allora, per questioni di sangue, cito prima di tutto mio fratello, ecco. Boris Sciacchitano, che ogni band che si rispetti deve avere almeno due fratelli, no? Chiaramente sì. I fratelli Angus Young, Malcolm, insomma. Certo. Poi alla batteria, alla risata prima, alla risata e alla fisarmonica abbiamo sentito Alessio Balute Turco, il nostro assessore, poi alla batteria Cristian Toneato detto Colete, Jacopo Casadio alla chitarra, e Thomas Vergendo alle voci e in questo caso al supporto psicologico, e poi chi manca? Sergio Galasso al banjo. E Davide Sciacchitano. E io. E Davide, chiaramente. Una jam session di 3 minuti e passa, insomma, possiamo dire così. Esatto. Quando venite a trovarci anche voi. Me l'ho già detto. Cosa hanno detto? Mi sembra siamo Alberto sta facendo i contatti. Ma sette come facciamo a stare qua dentro? Ma siamo stati in 13, compreso me qua dentro, allora, quindi non c'è poco da fare. Sui tavoli, ballerina. Sì, sui tavoli, scavi dappertutto, ma in 13 abbiamo suonato, hanno suonato, perché ho suonato anch'io in 13 praticamente. Fatta. È una cosa meravigliosa, cara Rebi, in 13, con tutti gli strumenti acustici, violoncello compreso, lo suonava un ragazzo che era un quintale musicalmente parlando e non soltanto musicalmente parlando, era immenso, ma ci siamo stati tutti. Ci sono problemi? No, assolutamente. No, vedo che si sta... No, si mettono a posto le cuffie. Sono perché ho il cavo. Assolutamente. È tutto dal vivo, anche mettersi a posto il cavo. È la bellezza della diretta. Appunto. Esatto. Allora, io vi ricordo sempre il nostro numero telefonico 049-875-6423, mentre per gli sms vi ricordo il 346-23-20-033, sono le 22:19, ancora 40 minuti circa, sì, più o meno, in compagnia di Rebi Rivale, perché appunto, come dicevo prima, Renato Ferro non ci sarà questa sera, quindi per gli amanti del heavy metal, dell'hard rock, l'appuntamento è rinviato alla settimana prossima, e ne approfittiamo così, ne abbiamo approfittato per chiedere a Ornella, meglio, la chitarrista, se ci firmava il permesso. Ce l'ha firmato e quindi è qui mezz'oretta e più, e noi ci fa solo che piacere, perché così avremo modo di sentire ancora di più di questo nuovo disco di Rebi Rivale che si chiama Emergenze. C'è una canzone che ti ha impegnato più di tutte rispetto alle altre, o più o meno sono tutte sullo stesso tempo? Che mi ha impegnato no, che emotivamente mi prende di più sì, ed è Cicatrice, che in realtà è forse tra le più spoglie a livello di arrangiamento, ma il contenuto è molto forte, e quindi forse interpretare Cicatrice è la canzone che ci impegna di più. È molto delicata, è davvero molto, non so neanche spiegartela, la senti proprio tanto. Ci tiene in tensione sempre. Non la fai stasera? Beh, la possiamo sentire, no, al limite. No. Sì, possiamo sentirla. Perché noi abbiamo scritto che è lentissima ed intensa, e poi ho anche scritto che secondo me è un tango esasperato, nel senso più bello del termine. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, è vero, è un'osservazione giusta. Io l'ho sentita così, è molto bella, molto... cosa dici, Agostino? Sai che qui a Blue Time Live oppure a Rockway le scalette vengono distorte? Sì. Assolutamente. Però per correttezza... facciamo le scalette prestabilite. Certo. Con me, sai, è difficile, ci sono le scalette prestabilite. Vediamo quanto tempo abbiamo. Ma dal vivo dici o dal disco? No, da disco. Però io, se mi consentite, non volevo mancare di rispetto al quinto... No, quello facciamo prima, artista, sì. Certo. Del disco, e quindi è giusto farli sentire tutti e cinque, ed è Giovanna Dazzi. È Giovanna Dazzi, esatto. Che insieme a Cristian Pascialupo hanno affrontato, quando io riconoscevo, gestivano un progetto elettronico che io ho ascoltato, ho avuto il loro EP, e loro, ecco, la consegna di Iride è stata la meno immediata delle canzoni, perché Iride noi l'abbiamo sempre fatta dal vivo, e io ho sempre detto a loro due, a Ornella e Davide, ho sempre detto: non riesco ancora a trovare l'arrangiamento giusto, proviamo a fare un'altra cosa. Quando l'ho consegnato a Giovanna, di cui amavo il progetto perché mi piaceva moltissimo, non sapevo che cosa mi sarebbe tornato, ed è lo stravolgimento più grande rispetto all'originale e l'arrangiamento più azzeccato rispetto al contenuto, perché Iride è molto etereo, è molto leggero come contenuto, e loro hanno saputo davvero... Mi hanno riconsegnato un pezzo che io ho detto: ma questo è mio? Questo è mio? Tra l'altro con un rischio. Tieni presente che l'originale è doppiamente veloce. Noi l'abbiamo suonata qua l'anno scorso, perché un'amica ti ha fatto la richiesta. Sì. E loro l'hanno rallentata moltissimo, gli hanno dato questo tocco magico. Ed è stato l'arrangiamento che più mi ha sconvolto quando mi è tornato, ma mi sono dovuto dire: questo è esattamente il vestito che doveva avere questa canzone. E loro sono stati veramente bravi. Non era facile perché gli è arrivata una cosa velocissima, suonata con la chitarra a perdifiato. Ma perché non lo era prima, secondo te? Perché non ero riuscito a trovare l'arrangiamento giusto. Non riuscivo a trovarlo, io non sono una musicista, e quindi non riuscivo a trovarglielo. Ma avevo questa intuizione che, con la genere di musica che avevo sentito far loro, poteva esserci una sorpresa, ma diversamente dagli altri non riuscivo neanche a immaginarmi quale. E quando è tornata indietro siamo rimasti super piacevolmente colpiti tutti quanti. È stata il pezzo che in assoluto mi sono dovuta abituare di più, però è stato indovinatissimo, e non poteva avere un altro arrangiamento che non questo elettronico sospeso. E loro sono davvero bravi. Tra l'altro si sono sposati da poco, e quindi io rinnovo le congratulazioni e gli auguri a Giovanna e a Cristian. E quindi, se vuoi... Vuoi che lo ascoltiamo adesso? Come vuoi, ascoltiamo Iride. Ci sono cose dentro qui che restano sempre, ricordi o fate vigili di un altro presente. Non c'è memoria del perché, non c'è lo spazio nel tempo, l'entrata è dietro l'iride, un'altra porta del mondo. sono le mani sulle mie, quelle parole che ascolto e la memoria è un brivido, a volte privo di senso, e trovo pagine di te accartocciate in un pugno, e trovo immagini di me interrogandoti in sogno. Noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. Ci sono cose dentro qui, in attesa da sempre, nascoste bene immobili, finché qualcuno le scorge. E riconoscersi non è guardare indietro negli anni, perché c'è un tempo che non c'è, di cui rimangono segni. E proprio dentro l'iride, teatro col suo sipario, si vede quello che non c'è, come un racconto al contrario. E quando gli occhi dormono, c'è qualcun altro sul palco che ha già vissuto dentro noi, portando via ogni ricordo. Noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. C'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. Noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi... persona, dobbiamo capire cosa tenere, cosa no. Un'altra dimostrazione di come è difficile scegliere una canzone da questo disco. L'avete capito anche voi da casa che state ascoltando questa serata in compagnia di Rebili Vale, che ha fatto un disco bellissimo. Radiofonicamente parlando, se uno deve scegliere, è difficile scegliere. Rebi, non c'è molto bene, molto bene. Io ho scelto quella sera lì perché era così simpatica, eravamo in allegria, l'ho scelto. Però è veramente anche questa è di una bellezza unica, insomma. Cioè... Sono stati bravissimi a indovinare davvero l'arrangiamento per questo contenuto. Era inimmaginabile per me. Dov'è? Paola ti fa sapere che Iride è la sua preferita, la adora. Paola chi? Meo. Ah, pensavo la Rossato perché è un nome... No, qui c'è un sacco di gente che ti saluta. Belzebù. Bene, bene. Sì, me l'aveva detto. Allora c'è Filippo Tantino che ti saluta, dice ciao Rebi. Ciao Filippo. Poi c'è due tuoi colleghi, una dalla Sardegna e si chiama Anastasia Locci, che fa parte del gruppo che ha partecipato tra l'altro anche al Festival di Sanremo. Ah, ok. Si chiama appunto Anastasia, dice salutala anche da parte mia, ti sta ascoltando. Ciao Anastasia. Ecco, poi c'è Emanuele Avanzan, che penso che conoscerai, dalla zona friulana se non sbaglio, fa parte di un gruppo, anche lei. E poi c'è, chi c'è ancora? Qui ce ne sono tantissimi che scrivono, Francesco Fauro forse te l'ho già detto, e Anastasia ti ricambia i saluti. Beh, io ricambio a tutti e ringrazio anche di essere in ascolto. Sei molto seguita, insomma. Maurizio. Sì, no, parlando di Iride, giustamente mentre il pezzo andava, Rebby mi spiegava, la bellezza è l'intuizione di giocare con l'elettronica, un'elettronica sospesa, appena appena accennata, molto onirica, molto anni, fine anni 60, inizio anni 70. E quello ha favorito notevolmente il pezzo, chiusura dell'album, ma ufficiale, poi c'è la Ghost Track, pardon. Però è una chiusura bella, diversa, posso dire questo, musicalmente. L'elettronica non era nelle corde di Rebby, ma è entrata. No. È una cosa, le cose si devono sviluppare, si devono allargare e ci si deve sempre trovare qualcosa di nuovo. Anche questo è una novità. Ma guarda, devo dire che un'altra sfida, non voglio dire provocazione, forse lo è, ma un'altra sfida è stata quella di mettere tanti generi musicali insieme. Effettivamente. Perché a monte il consiglio era quello di fare un album coerente, di cercare di non mettere, diciamo che mi era sconsigliato il procedere in questo modo, e non me ne è fregato assolutamente nulla, nel senso che io sono dell'idea che la musica è come l'umore, le stagioni, le giornate, il meteo cambia, esatto. Voglio dire, quindi perché no? Giusto. E quindi ho pensato, ma poi ho pensato che andavo avanti lo stesso. Appunto. Ed è vero. Bisogna sempre andare per l'obiettivo. Quando uno ha un obiettivo, bene o male, lo deve proseguire, lo deve aggrapparsi. Deve aggrapparsi. Poi lo volevo fortemente. Appunto. Proprio. Blue Time Live. Live. Allora, i saluti di Emanuela Vanzanti, ti dice la tua fan del Friuli, fa parte del gruppo La Sal. Ah, ok, capito, perfetto, grazie Emanuela. Quindi hai visto, c'hai anche la tua regione. Mi hai dato il collegamento, sì, certo. Maurizio. Sì, allora abbiamo presentato questi pezzi, questi cinque emergenti. Ci sono altri emergenti? Agostino te l'ha già fatta questa domanda, però possiamo allargare. Ci sono qualche altro emergente che tu hai notato che vorresti partecipare a un altro progetto Emergenti 2, per esempio? Allora, la risposta è sì, ce ne sono tantissimi, ma non mi sento di elencarteli perché so che ne dimenticherei qualcuno. Perfetto, e non è giusto corretto elencarli, però qualche nominativo ce l'hai in mente. Certo, ne ho in mente molti, ma so che poi mi mangerei le mani perché direi ho dimenticato questo, e quindi ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tanti. Penso di conoscerne tanti io, ne conosco tanti Rossella come Davide. Certo. Ce ne sono tanti, e tanti sono quelli con cui io collaborerei. Non credo che ci sarà un Emergenze 2 inteso come album, come provocazione, come intento di portare proprio gli come emergenti. Progetto, ma sì. Collaborazioni sì, sì, collaborazioni in questo sì. Caso ho dato anche un titolo che ha sottolineato questa caratteristica. Può darsi che ci siano album sicuramente, perché anche nel primo io ho avuto delle collaborazioni, sì, certo. In cui ci saranno delle collaborazioni, ma non sarà questo, diciamo, il protagonista dell'album non sarà in quel caso la collaborazione, ma vediamo che cosa. La giriamo la domanda. Vai. Cosa ti piace ascoltare quando sei a casa da sola? Tutto. C'è qualcosa che ti porteresti in un'isola? Tre dischi, via. Vedi che ti ho... L'ultimo di Nicolò Fabi. Che è molto buono. L'ultimo di Nicolò Fabi. Mi porterei uno degli Skank & Nancy. Ah, come mai gli Skank & Nancy? Perché li ho ascoltati tanto, gli album di, ti sto parlando, di 5-6 anni fa, prima che si sciogliessero, sì, la prima volta. Sì, dopo si ritorna, tornassero insieme. E forse mi porterei un disco di musica classica. Ho capito. E gli altri protagonisti della serata cosa si porterebbero su un'isola deserta? No, non ridere, Rossella, sotto anche te, vieni avanti, adesso il microfono. Tu i tuoi pezzi preferiti? Aspetta che facciamo ascoltare 30 secondi a Rebby. Hai visto che gesto ha fatto? Chi hai fatto la domanda, Maurizio? Rossella, i suoi dischi preferiti? Tre flash. Te l'abbiamo chiesto quella volta della telefonica. Vai avanti, guarda, il microfono. Lì mi viene in mente, se dovessi andare su un'isola deserta e avere solo tre dischi, ovviamente quello di Rebby Rivale. Benissimo. Quale? Il primo o il secondo? Il secondo, assolutamente. È vero. E gli altri due? Gli altri due mi porterei forse qualcosa che ha a che fare con la mia adolescenza, i Cure, i Joy Division, Dead Can Dance, queste cose qui. Beh, una bella adolescenza, i Dead Can Dance, che hanno suonato qualche tempo fa. Era un po' dark, poi ho cambiato improvvisamente. Ma i Dead Can Dance fanno parte della musica del mondo, più che dark, secondo me. Molto bravi, a mio parere. Sì. Questi sono i tuoi riferimenti. No, i tuoi riferimenti dell'adolescenza. I miei riferimenti dell'adolescenza. Poi, insomma, col tempo si cambia, no? Ci si evolve, si cambiano ascolti. Sono passata poi alla musica classica, alla musica medievale, sono passata ai cantautori italiani. Quindi un mondo. All'heavy metal, ho ascoltato un po' di tutto. Quindi non ho un genere se non il mio. Poi. Certo. Davide, tocca a te. Sì, beh, io ovviamente. Dopo tocca anche l'Ornella. Ovviamente io ho un album di Libera Dante, mi porterei sull'isola deserta. Certamente. Che ha un pezzo che si chiama Taranta Sprayer, che è una bomba. Ma lo sappiamo. E poi, qualcosa legato al mio passato, hard rock, penso i Led Zeppelin. Led Zeppelin. Qualsiasi cosa dei Led Zeppelin. E non mi odiare a Rabbi, un po' di jazz, Christian McBride o Avishai Cohen, grandissimi contrabbassisti. Com'è, guarda, falso, quando è insieme a noi anche non lui, mi odiare. Anche lui dice no, jazz no, adesso in radio va bene il jazz. No, non ti odio, ti legno dopo, ma non ti odio. Avishai Cohen o Christian McBride, che sono due contrabbassisti veramente pazzeschi. L'Ornella vuole dire qualcosa al microfono? Oppure vuole riferire a Rebi, vedi te? Ma credo tutto Bach se sta in un CD solo. Sarà un po' difficile, ma va bene lo stesso. In MP3. The Wall di Pink Floyd. Ah, The Wall di Pink Floyd. Vai a vedere Roger Waters, che qua parla. Certo. Ah, hai preso il biglietto? Certo. Benissimo. Sì, ho preso anche permesso quel pomeriggio. Ah, benissimo, fai benissimo. E il terzo tanti altri. CD... Rebirri. Sono stati proprio. Mi deve accompagnare a casa. Sono delle scelte democratiche. Ma capisci che nessuno di noi, al di là di Rossella, che non fa parte abitualmente della nostra formazione, ma abbiamo veramente estrazioni diversissime. Beh, è giusto che sia così. Ma forse è per poi quello. Tu mi hai preso impreparato, perché sì, adesso già mentre loro rispondevano me ne venivano in mente altri. Ma è bello, è quello. Se la domanda fosse stata preparata, non era spontanea. Ma perché io non ho delle preferenze? Dimmi. No, nessuno di noi, a parte Rebi, porterebbe con sé cantautori. Lei, questo Nicolo, è vero. Fabi, ma noi non. Nessuno. Come no? Portate via Rebi Rivale. Sì, Rebi sì Rivale. Certo. Emergenti. Scusa. Va bene, io voglio fare un piccolo omaggio a una cara amica, Rebi. Lasciamelo fare, perché gli voglio un bene anche a lei. È da tanti anni ormai che la conosco e gli faccio questo regalo. Cielo con una nube tutte le strade e fa calargento, scalmi tutti i ladri, metta cori, metta cori, metta cori su una stella, in più cori, ti meraviglia. Pioggia di luli e luli chini di pioggia fina, leva e lava, leva e lava, la ferita, la ferita, la tu sempre. Blue Time Live. Blue Time. Live. Dovevo farglielo, Rossella. Questa è la canzone con la quale l'ho scoperta. E che poi l'ho contattata e gli ho chiesto lumi, eccetera, eccetera. Mi ha fatto vedere il disco. E... hai fatto bene, tra l'altro, è una delle canzoni preferite mie di Davide Ornella. Sì. Quindi. Sì. L'ho conosciuto prima di te, Rossella, proprio tantissimi anni. Ormai. Perché è più vecchia. Sì. Allora, dimmi, Maurizio. No, mentre il pezzo andava di Rossella, io ho notato, volevo fare lo scherzetto di alzare il microfono, ho notato che cantavano sia Rossella, sia Rebi, sia Davide, e non l'ho aperto il microfono perché mi hanno minacciato, non devi aprire il microfono, perché era bello, era una jam session improvvisata, cosa dici? Sì, improvvisare sul siciliano senza sapere quello che stai dicendo. Non vuol dire assolutamente nulla. È bello, sì. Rebi, se vuoi salutare Paola, ti sta facendo pubblicità un po' dappertutto, Paola Rossato. Oi, la Rossato è il nostro capotreno. Paola, Paola, certo che la saluto, ci vedremo domani e ci vediamo. Porto spesso. Tra l'altro anche lei sta raccogliendo bei successi, e sì, è in partenza per il Contursi, per Botteghe d'Autore, era finalista con me a Milano, quindi sta avendo un bel successo e ha intenzione di avere finalmente concretizzare il disco verso fine anno. Quindi, speriamo. Sì, lo stiamo aspettando. Anche in lei mi ha promesso da lo molto stiamo più. Aspettando e sarà sicuramente un lavoro straordinario perché ha un progetto bellissimo. Bene, Agostino, adesso abbiamo deciso, so se sei d'accordo, di mettere su Cicatrice. No, adesso no? Facciamo ascoltare qualcosa facciamo, da vivo. Facciamo da vivo? No, io volevo mettere due pezzi al finale. No, la mia democrazia vince sempre. Chiaramente sì. Boni. No, vabbè, la dialettica democratica di una radio è questa. Cara Davide, lei. Paola ti conferma che domani ti porta il Graffin. Grazie, Paola. Allora, cosa ci fai ascoltare? Allora, vi facciamo sentire Vuoto Rendere, che insieme ad altri brani sono rappresentativi di quello che è non solo il nostro progetto, ma anche il nostro impegno in prima linea. Vuoto Rendere parla della violenza di genere e purtroppo è tristemente sempre un argomento di attualità. Purtroppo. E quindi Vuoto Rendere. Vorrei andarmene, ma non da qui, non da lui, non da questa casa. Lasciarmi qui, con la mia carne, la mia pelle, i miei vestiti addosso. Lasciarmi vuota qui, devo capire senza corpo di che cosa resto. Devo capire senza corpo di che cosa resto. Devo capire senza corpo di che cosa resto. Volare sopra me, per differenza calcolare quale peso lascio. Guardare giù mi penserebbe addormentata, mentre no, non dormo. Mi penserebbe addormentata, mentre no, non dormo. Mi penserebbe addormentata, mentre no, non dormo. Non chiudere più gli occhi, inventando un altro mondo, serrando i pugni stretti e aspettando un altro giorno. Che Dio, se c'è mai stato, non la vede questa pena. Sarà perché è impegnato o perché è messo di schiena. Vorrei rinascere per non avere cicatrici né ricordi dentro. Rivivere senza rumore in fondo al mare col suo movimento. Senza rumore in fondo al mare col suo movimento. Senza rumore in fondo al mare col suo movimento. E non stringere più i denti, implorando voli il tempo. Le mani fra i capelli per un sogno che era falso. E Dio, se ancora esiste, si preoccupa di altro. Sarà che conto poco, o sarà che adesso è stanco. Non spegnere le luci, vedendomi allo specchio, toccandomi con gli occhi, un sorriso mai riflesso. E Dio, chi l'ha inventato, poteva farlo vero. Sarà che non arriva, sarà che più non credo. Vorrei andarmene, posarmi a terra, e vuoto arrendere. Magari prima o poi qualcosa cambia, lasciarmi vuota. Vorrei rinascere, vorrei rivivere, volare sopra a me, guardare giù. Lasciarmi qui, posarmi a terra, piano, e vuoto arrendere, e vuoto arrendere, e vuoto arrendere, e vuoto arrendere. E non chiudere più gli occhi, inventando un altro mondo. Serrando i pugni stretti, aspettando un altro giorno. E Dio, se c'è mai stato, non mi sente quando chiamo. Sarà che in fondo, anche lui si sente uomo. Molto dura, ma nello stesso tempo è anche molto bella, anche musicalmente parlando, insomma, come canzone. Grazie. Bella e dura anche musicalmente, secondo me. Sì, beh, nell'album di più. Nell'album ancora, di più. Qui, nell'album chiaramente. Di più ancora, qui abbiamo cercato di adattare comunque il mordente con gli strumenti che abbiamo. Che c'era il mordente, c'era, assolutamente. C'era. Soprattutto nel violoncello di sì. Davide, l'ha dato il contrabbasso, molto. Sì. Sì, il contrabbasso, esattamente. Ascoltiamo in sottofondo. Questa dal disco, eh. Vorrei andarmene, ma non da qui, non da lui, non da questa casa. Lasciarmi qui, con la mia carne, la mia pelle, i miei vestiti addosso. Con la mia carne, la mia pelle, i miei vestiti addosso. mi vuota qui. È molto bella questa, è una canzone che ti tocca il dentro, insomma, per voi donne ancora di più forse. Per tutti, per noi sì, donne sì. E per, anche per tutti gli uomini. Certo. Saluti da Roberto Giordi, dice saluti a Revi, quale una delle migliori esponenti dell'Onda Rosa, se non la migliore. Vai Rebi, l'Onda Blu, che ne ha fatto il riferimento radio, è con te. Grande, grande Roberto. Ciao grande. Roberto, ciao. Ti aspettiamo sempre, anche se Roma è lontana, ma insomma Padova si raggiunge in pochissimi minuti se si vuole. In treno tre ore. Tre ore. Quindi si fa presto. Ciao Roberto. Allora, cosa pensavate? Ah, io volevo chiederti, i prossimi progetti futuri, cosa hai in mente insomma di fare? Quelli imminenti e anche poi a lunga scadenza. Adesso si sono, diciamo, sdoganate un po' di date, nel senso che ci siamo dall'uscita dell'album, che è stato ufficialmente su iTunes, diciamo, il 7 maggio, fino al 7 luglio siamo stati davvero molto concentrati sulla presentazione dell'album, sugli arrangiamenti nuovi e quant'altro, cercando di limitare, se non altro, di suonare in zona. Abbiamo suonato a Firenze, abbiamo suonato fuori. Adesso si sdogana un po' tutte le date, quindi abbiamo date dalla settimana prossima fino ad agosto e settembre. Adesso vediamo anche degli impegni per i primi di dicembre, quindi suonare tanto, Agostino. Suonare tanto, questo è l'obiettivo. E che non è facile, sai, Rebi. Non è facile perché si fa molta fatica, specialmente per la vostra tra virgolette categoria di cantautori emergenti. Si fa sempre veramente molta fatica. Insomma. Si fa fatica nell'ultimo paio d'anni, devo dire che si fa sempre più fatica. E questo te lo può confermare qualsiasi cantautore, però è anche la nostra forza. Io credo che non ci sia miglior promozione che non la radio, che non suonare dal vivo, che non suonare dal vivo davanti alla gente, con la gente, davanti a ma se nessuno ti dà la possibilità o poca gente, hai poche possibilità. Guarda, noi quest'estate faremo musica di strada anche. Ah, bene, tipo sì. Basket, esatto, tipo. Ornella pensa di no, ma sarà così. Perché sostiene. Io ho già fatto. Se non è L'Aquila, è Città di Castello, sappiatelo. Ah, facciamo musica di strada. Lei si lamenta perché la sua chitarra si scorda sotto il sole. Ah, sì? Le metteremo l'ombrellone col cappellino, come si confà a una signora. Puoi fare età. Tranquillamente tutti i gesti che vuoi, Ornella, che non abbiamo le telecamere. Però sì, faremo anche musica da strada, ed è una strada, ed è una scelta che io vorrei anche replicare, perché credo che sia giusta. E ti darà molte soddisfazioni, Rebi. Questo non lo so, perché noi non facciamo strumenti, non lo so davvero, è un'incognita, però è giusto anche rischiare, è giusto anche vedere se la gente va via dritta, se si ferma, se siamo interessanti anche in quei contesti. Noi abbiamo avuto diverse artiste che sono basket, non italiane onestamente, tipo la Chiana o anche la Spring Groove. Uh-huh. Però loro mi dicevano che non smetteranno mai di essere baskers, perché la soddisfazione che è suonare in mezzo, addirittura la Chiana suona a un incrocio sotto il semaforo, per dirti, insomma. E dice che le soddisfazioni che riceve lì spesso e volentieri non sono le stesse che riceve magari fare in un concerto. Ma io ci credo, però chiediti, cioè, queste suonano in Italia per strada o all'estero? Anche in Italia, soprattutto a Ferrara. A Ferrara perché c'è il basket. Allora, ci sono delle città che lo permettono senza tanti problemi. Ah, certo. La maggior parte delle città, te lo dico perché recentemente ho fatto una ricerca proprio per chiedere, per vedere se c'era necessità di permessi, costi, quant'altro. Nella maggior parte dei posti, cioè, ti viene da dire ok, non suono per strada. Addirittura. Multe, permessi, denaro, costi. E cosa consumi? Consumi niente perché consumi la tua? Allora, il discorso è che in Italia, sotto questo punto di vista, come per altri, ci sono paesi europei dove l'artista di strada viene pagato. Sì. Viene pagato. Verissimo. Come abbellimento di una città. Certo. In quasi tutte le città del nord è un invito. Sì. Cioè, le città invitano i baskers per strada. In Italia è un po' più difficile. Vediamo cosa riusciamo a fare. Un po' più complesso. Sì. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se suoni per strada a Padova, dimmelo. Chiaro, certo. Io vendo magliette, va bene? Va bene. Marco Bianchi ti dice vai, Rebi. Marco Bianchi è il regista di tutto quello che è stato il nostro live a San Giorgio, che è una persona che ha scritto le partiture per tutti i musicisti, ha coordinato tutte le persone, ha preso l'album e ha cercato, l'ha riadattato a 8 elementi, ha fatto un lavoro strepitoso ed è stato veramente un regista eccelso. Io grande Mr. Wise. Grande Mr. Wise, io gli devo molto e speriamo tutti, ma tutti noi, di continuare a fare delle cose insieme. È veramente un professionista in gamba e un uomo speciale. E se andate sulla pagina di Marco Bianchi c'è un video con un'espressione bellissima di Ornella. Ecco, era stanchissimo, vero Ornella? Che sei? Va bene, facciamo ancora un po' di break con ancora una canzone dal disco, questa cicatrice, insomma. Ci vuoi raccontare ancora qualcosa in più o ti basta quello che hai detto prima? Cicatrice è un pezzo difficilissimo, è stato difficile scriverlo, è difficile cantarlo e parla della difficoltà del vivere e della difficoltà di scegliere di continuare a vivere, quindi è un pezzo che tratta marginalmente l'argomento del suicidio. Lo spunto, la cito, lo spunto è di un libro che ha scritto Antonella Gattibardelli, che è udinese, che si chiama Il cielo capovolto, edito da Bompiani se non sbaglio, e che vi invito a leggere perché è molto interessante, parla di disturbi bipolari e di un argomento insomma molto, molto impegnativo, ma sul quale c'è bisogno ancora di fare molta sensibilizzazione. Quindi l'insieme di questo e la storia che è qui racchiusa mi ha ispirato questa canzone che si intitola Cicatrice. Posso baciare la tua voglia come tessuto sulla pelle, lì dove andrebbe chiuso il tempo, sotto la linea della vita, perché la voglia è un desiderio, perché la voglia è un'intenzione, perché di voglia si sta male e a volte il male lascia il segno. Perché ogni vaso ha la sua goccia, perché ogni goccia ha il suo colore e più di qualche gradazione, e il rosso a volte ha un suo sapore. Che sa di ferro questa vita, come di ferro una prigione, alle caviglie le catene e gli occhi vogliono morire. Che sa di ferro questa vita, come di ferro una prigione, alle caviglie le catene e gli occhi vogliono. Due tele già asciugate, lì dove pulsa l'esistenza, sotto la linea della vita, perché la voglia ha una coscienza, e ogni coscienza ha una ragione, e più di qualche spiegazione, innumerevoli difese. Posso tenere la tua voglia tra le mie mani spaventate, come una lucciola d'estate, e custodire la tua luce. Anche un elastico si spezza oltre la sua precisa soglia, e si allontana ma non torna, e si allontana ma non torna. Si spezza oltre la sua precisa soglia, e si allontana ma non torna, e si allontana ma non torna, e si allontana ma non torna, e si allontana ma non torna, e si allontana ma non torna, e ritorna. torna. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, Rebi, Marco dice che sei troppo buona. È vero. Modestina. Invece in bocca al lupo a Marco e Elsa che sono in partenza per Como. A proposito, Elsa dice un abbraccio a Gigina Ribina e a te e a me. Vabbè, ciao Elsa, un bacione e un abbraccione, spero di rivederti presto. Conosco non conosco nessuna Elsa, no. Non conosco nessuna. E poi ancora saluti da Stefania, Katia, Anto e Sonia. La bisca basso. Le conosci queste? Sì, le conosco. Ecco. Sono tutti in ascolto stasera, ti stanno ascoltando. Sono bravi. No, sei tu che sei bravo. Grazie comunque. Cicatrice è una canzone dove Ioanna e Davide suonano splendidamente. Sì. Giusto? Sì. C'è un... Sì. Scusa, mi sto facendo mente locale con gli arrangiamenti perché sei tornato là. Sì, beh, è molto impegnativa. È molto emotivo questo pezzo qua, tantissimo. E quindi sì. Pioncello e contrabbasso, praticamente. Certo. Stasera abbiamo un bel contrabbasso che mi ha detto Davide non è proprio antico, però ha l'aspetto di essere antico, nonostante non tutto. È di liuteria. Non è di liuteria. Il prossimo sia un prodotto artigianale, questo è assemblato con legni un po' farlocchi. Beh, però, insomma, però è assemblato bene, fa il suo mestiere, veramente. Sì. Ti dico questo perché qualche mese fa, è venuto un ragazzo contrabbassista che aveva un contrabbasso del 1903. E lo trattava meglio di sua sorella che era presente, quindi, cioè, di suo amico, insomma, lo trattava in modo religioso, proprio, una roba bellissima, aveva proprio una specie di panno che lo copriva poi l'ha tirato. Spero di non fare quella fine. Perché? Era meraviglioso, era roba meravigliosa come lo si vedeva. Lo amava fortissimamente, perché il musicista dice sempre che lo strumento è una cosa che fa parte di se stesso, non è così? Come la Ramirez per Ornella, lei ci va a letto con quella chitarra, sì. Una roba impressionante. Ma è vero che sì, è bellissimo, sì, perché lo strumento è proprio, fa parte completa della persona, c'è poco da fare. Eh sì, è vero. Una protuberanza di Ornella. Ecco, perfetto. È un cuscino, un po' duretto. È un po' duretto come cuscino, ma insomma. Sì. Ma viste le poche ore che dormi. Benissimo. Un'altra cantante sarda, Claudia Loddo, ti saluta, un saluto. Ciao Claudia, grazie. Sono tutte con lei, quindi ti stanno facendo... Un giro d'Italia, anche del mondo. Ma... Io volevo chiedere a Rossella, che ha parlato pochissimo stasera, che difficoltà hai avuto, o se non ne hai avuto, penso che sia la seconda ipotesi, lavorare con Rebi, insomma. Che personaggio è al di fuori dell'aspetto che tutti conosciamo, Rebi? Ma guarda, assolutamente non ho avuto alcuna difficoltà, non mi viene in mente alcun che da dire a livello né professionale, sia professionale che artistico. È meticolosa. Cioè, è un po' severa, sì. Meticolosa. Ma questo comunque fa parte di lei, no? È una persona molto sicura, quindi ho tanto da prendere in questo senso, no? Perché è un po' il contrario di me. Io sono sempre un po' lì, ci sono, non ci sono, vengo, non vengo, vado, non vado. Lei invece sa perfettamente dove andare, che fare. Quindi comunque, non lo ritengo un difetto. Quindi non ho, almeno finora, per quello che l'ho conosciuto finora, non ho niente da dire e nessuna difficoltà. Ma ce lo svegli un segreto? Ci sarà una prossima collaborazione? Io spero di sì, magari questa volta facciamo il contrario. Il prossimo disco lei arrangia e un poi lo mio vieni brano, tu a presentare qua lei e ti poi fa... veniamo qua. Certo. E lei suona le percussioni. Io ci sto sempre. Che ti stiamo registrando, quindi allora motivo in più. Ecco. Ma non c'è bisogno, con Rossella, con i ragazzi giù. Se non altro per gli arancini, lavorerei ancora e sempre tanto. Ma tu stai facendo venire voglia a tutti noi, non ce ne hai portato neanche uno. No, ti ho detto che sono finiti dopo un quarto d'ora. Guarda, io non ne ho portati di più, Agostino, perché comunque si rovinavano. Perché avevo pensato anche ai cannoli con la ricotta, però insomma, un po' di acido. ci sarebbe stato un po' di acido anche dopo un paio d'ore, quindi ho evitato. Però li conosco perché sono venuto nella tua terra l'anno scorso ad un festival, insomma, che mi hanno invitato, e ho avuto modo di apprezzare la vostra cucina, insomma. È meraviglioso. Senti Rebi, dove, cambiando discorso, tornando a noi, dove si può acquistare il tuo disco? Il mio disco ha distribuzione digitale su tutti gli store digitali, dal principale iTunes a Amazon, a tutti gli store digitali, oppure se volete supporto fisico ai miei concerti. Quindi nel sito mio, che è aggiornato, che è www.rebirivale.it, sono aggiornate le date. Poi eventualmente mi chiedete, mi scrivete e vediamo se vederci, disponibilissima a mandarvelo. E quindi così, quindi stiamo invitando la gente a venirci a sentire. E allora i prossimi concerti? Cioè, i prossimi concerti, guarda, aiutami tu col sito, ti dico che il giovedì prossimo siamo a Montebelluna, al Compact Disc, anche siamo in formazione acustica chiaramente. Il 27 sono One Man Guitar all'interno del progetto del visionario del circolo acustico, quindi sarò da solo, mi accompagno con la chitarra, ma ci turniamo in quattro cantautori il palco. Poi sono certa che mi sto dimenticando delle date, siamo al 16 agosto, sono sicura, a Rieti, e il 17 appunto saranno le giornate della musica da strada. Il 10 agosto, scusami, sono all'Osteria di Poeti, che per noi è un appuntamento importante perché è un posto, guarda, è un po' come voi, nel senso che hanno creduto in noi da subito e hanno fatto tanto per noi, e quindi per noi è sempre un piacere tornare. E poi saremo il 25 a Montebelluna agli Ostinati, e poi altre date da confermare, ma che... No, queste le hai dette tutte. Poi altre da confermare che non ho ancora inserito perché sto aspettando la conferma, e anche perché non ho avuto tempo in questi ultimi giorni di farlo. Allora, adesso cosa facciamo? Ci facciamo tre canzoni, due dal vivo e uno dal disco, o solo due? Facciamo come volevi e noi te la regaliamo. Yeah. Chez Simon, okay. Che è stato appunto il premio Amnesty di quest'anno e per la battaglia contro l'omofobia, il premio speciale di Amnesty. Che mi ha fatto un mondo di piacere, perché anche le parole che tu mi hai detto, insomma. Mi ricordo. In merito al video, sì, della canzone. Sì, perché tu hai fatto un video che hai girato tanto, E quindi Chez Simon. Ok. Ridono di me, le voci negli orecchi, ridono di me, ormai da tanti anni ridono perché oggi ho i capelli lunghi, tinti con l'henné, non ho più barba e baffi e il seno più abbondante delle mogli. Ridono di me, al bar con tutti gli altri, chiedono il caffè, in attesa che io mi volti, e ridono di me, dal culo ai tacchi alti, ridono di me, a turno tutti quanti, e pregano che io non li tradisca mai. Ma la notte chiedono l'amore, alla porta bussano con un fiore, delle risa chiedono perdono e dimenticano che io fossi un uomo. Ridono di me, ma mai nessuno ha chiesto il sogno mio qual è, o se volevo questo. Ridono perché ho dita grosse e brutte, è il trucco de modè, e a volte calze rotte. Ridono di me, giocando col mio nome, sempre uguale a sé, Simon, come Simone, sperano che io non parli mai. Ma la notte chiedono l'amore, alla porta bussano con un fiore, delle risa chiedono perdono e dimenticano che io fossi un uomo. Ridono di me come mio padre un tempo, quando disse che non ero più suo figlio. Ridono anche se non fa più differenza se un motivo c'è o se lo fanno senza. Basta che ritornino da me. Quando la notte chiedono perdono, tanti volti eppure sono un uomo, e a quell'uomo do tutto il mio amore, e quando posso no. Quell'uomo do tutto il mio amore, e quando posso, oggi porto un fiore. Io non so voi, ma non mi vergogno di dire che ogni volta che sento questa canzone, me l'ascolto sempre in privato, se posso, mi emoziona, mi commuovo. Stasera no, perché sono un po' così, però da casa, da solo, spesso e volentieri mi commuovo. Non so perché mi ha sempre fatto questo effetto, è stata una delle canzoni che mi è piaciuta subito da quel disco. Grazie. Devo dirti che Scesimo mi emoziona tanto anche noi. È uno dei nostri personaggi più amati, forse il più amato, perché è il più indifeso. E quindi è molto amato da noi. Questa omofobia, insomma. Sì. Certo. Potremmo ricordare adesso, Rebby, i musicisti che hanno suonato nel disco, che non abbiamo. Non te li ricordi? Sono tantissimi. Beh, sono più tantissimi. Oltre a Davide. Beh, allora, guarda, Davide che ha fatto le parti di basso, c'è Mario Saroglia, Ioana Pavlik, c'è Cisco Portone. Ecco, questo voglio citare, Cisco Portone. Cisco Portone, che ha fatto le percussioni in quasi tutti i brani dove ci sono, al di là di quelli arrangiati dagli emergenti. Certo. E poi Ornella Tusini alla chitarra classica. Ornella Tusini alla chitarra classica, ha fatto alcuni pezzi. Alcuni pezzi, non tutti, sì. E poi Antonio Vasta, che è stato casuale, nel senso che era in studio a trovare Mario Saroglia, e in quell'occasione ha detto: mi suono io. Antonio Vasta è il fisarmonicista di De Gregori. Esattamente. Siciliano, tra l'altro. Una persona deliziosa. Ha detto: posso farlo io? Perfetto. Sì, di una gentilezza incredibile. E tanti altri. Abbiamo ricordato i più importanti, sì. I principali. I principali sono stati questi. Esattamente, sì. Quindi un gruppo aperto, sempre aperto. Sì, certo. È certo. Una cosa più bella che esista. Beh, hanno suonato credo 25, perché contando i Liberadanti, certo, di un quarto, che erano già loro più di una dozzina. Vero. Insomma, ci sono stati 20-25 musicisti che hanno suonato. È stato bello, bello. È stato bello, bello. Sembra una jam session continua. Per continuo. 30 secondi dell'Aquilone. Ho chiesto alla gente l'amore cos'è. Mi han detto che tutto, mi han detto che niente. Mi han detto che è meglio se farlo si entra. L'ho chiesto ad un uomo coi sandali ai piedi. Mi ha detto: l'amore è in quello che vedi, in tutte le cose eterne o mortali. Un uomo ubriaco diceva: l'amore si perde, si trova, si scorda all'altare, si scopre diverso, si può anche comprare. Ho chiesto ad un vecchio di dirmi l'amore. L'amore mi ha detto: è questo aquilone legato ad un filo per farsi tenere. Mi ha detto: l'errore spostare lo sguardo, una disattenzione, un colpo di vento, il filo che sfugge le dita dell'ovvio. L'amore cantava, va fatto volare. E poi va rincorso, seguito a distanza. Va scelto nel rischio, ma è perso di vista. Dovevo farlo. Dovevo farlo, Rebi, perché insomma questa è una canzone che mi ha sempre preso in simpatia la prima volta che ho ascoltato l'intero disco. Poi ovviamente sono andato più a fondo, ma insomma questa è simpatica, ti prende subito un classico. Questa è bella, sì, è potrebbe bella, essere un singolo quasi, no? È bella coinvolgente, ma sai che devo dire che fortunatamente ci sono più canzoni che mi viene detto potrebbe essere il singolo. Io ringrazio, sì, perché questa è una bella cosa, è bellissimo. Sì, perché è difficile scegliere qualcosa da questo. Meglio. Va bene, allora siamo quasi in chiusura adesso, sì, perché poi Ornella se no altrimenti ci fucilla tutti quanti. Prima però ci ascoltiamo ancora una canzone dal disco, perché ormai lo stiamo passando tutto. E tu hai scelto Se poi rimane, la traccia numero 3. Questa ci vuol dire qualcosa? Poi torniamo in studio e ci salutiamo con un'altra canzone dal vivo. Se poi rimane è un brano che parla della paura di essere felici. È una canzone con la quale io mi sono presentata al Bianca da Ponte, dove ho conosciuto Rossella, dove ho conosciuto Giovanna, ed è stata una canzone fortunata perché ha portato a casa dei riconoscimenti. È il pezzo dove suona Antonio Vasta la fisarmonica, e quindi buon ascolto e buona paura da abbattere a tutti quelli che possono e vogliono essere felici con Se poi rimane. Così tanto credevo giusto che fosse breve, credevo ovvio, ho creduto per così tanto che la felicità fosse un momento, dicevo è pace in mezzo alla guerra, improvviso fulmine che sbatte a terra, credevo giusto che fosse breve, o si sarebbe offesa d'abitudine, funziona come l'arcobaleno che si rincorre ma non si può avere, credevo ovvio durasse un lampo, e se poi rimane che nome ha l'eccezione, è sorpresa che amplifica le mie paure, perché fa dimenticare, inganno, magia, l'unica chiave che da sempre ha nascosto e difeso il mio regno. E sapevo come combattere contro il destino quando mi era avverso, e sapevo come non piangere quando qualcosa mi veniva tolto. Adesso è tutto fin troppo facile, e a volte penso sarà uno scherzo. Cammino nuda, senza armatura, non ho lo scudo, il volto mi è scoperto. Sembrava ovvio durasse un lampo, e se poi rimane, che gioco è, che mosse fare, incantata prigione, maledetto l'amore. Se c'è un'eccezione, il prezzo qual è, quando pagare, è un coraggio diverso, è un coraggio mai visto. Ho creduto per così tanto, credevo giusto che fosse breve, credevo ovvio, se la felicità si sofferma a guardare, poi per qualche ragione rimane a dormire, si risveglia e ti osserva come fosse un esame, stringe un nodo al tuo dito e diventa aquilone. E c'è e può restare, che nome ha, non voglio dire, è sorpresa, conferma delle mie paure. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, altra ennesima perla di questa collana pienissima di cose straordinarie, di queste emozioni, questo disco che dà veramente tantissime emozioni, che si chiama appunto Emergenze. E Raby, hai fatto, come ti ho già detto, un'opera d'arte. Io non posso che ringraziarti. Non posso che ringraziarti per quello che stai dicendo, per l'ospitalità qui, che per noi è importante, e per il sostegno che stai dando non solo a me, ma anche altri cantautori come me che stanno facendo quello che possono per andare avanti. Io quella volta che ti ho scoperto con quelle canzoni del disco precedente già ero entusiasta, perché lo sai, insomma. Ma adesso di avere in mano una seconda faccia di Raby Di Vale, ancora più bella, ancora più sua, sono ancora più contento e onorato di conoscerti e di averti invitato qui in studio, insomma. Beh, io ti ringrazio ancora tanto. E ti porto i saluti, tanto per cambiare, dal Brasile, Marcia Caetano. Ah, beh, saluti, sì. Toda gioia, dice Davide. Abbiamo avuto un seguito dal Brasile, anche di una radio dove ci sono italo-brasiliani che mandano in onda proprio delle proposte italiane. Quindi abbiamo sì un piccolo seguito dal Brasile. Bello. E poi ancora Bobby Wright, che è un fan anche di Arianna Antinori. Quindi, ah, okay, ecco, okay. Quindi ti conosce. Poi ancora Fortunato Cacco, che è Forto, insomma, quello che è stato qui, tra l'altro un tuo collega, un cantautore qui della zona di Venezia. Vero Maurizio? Sì, sì, veneziano. E poi andiamo a Torino con una ragazza russa. Si chiama Kat Veshkina, non so se si pronuncia così. È venuta lunedì. È venuta con il suo Max Dimitriev, con un cantante russo. Ok. E poi siamo international, insomma. E poi a Bologna con Barbara Gobbi, che forse la conoscerai, un'altra cantante, che lei è tuo collega. Beh, saluto Barbara. Ecco. E poi ce n'era un'altra ancora che aspetta, che mi è scappato, eccolo qua. Si apre Francesco Castioni. Ciao Francesco, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Anche noi ti ringraziamo di tutto quello che hai fatto questa sera. È un sera. Piacere. Hai fatto un'ora in più, 2 ore e mezza. Ha firmato Ornella. È firmato Ornella, sì. Ha dato il pass per perseguire. Non per essere vanitoso né presuntuoso, ma credo che pochissime radio ti diano così tanto spazio. Penso anch'io, direi anch'io. Abbiamo fatto ascoltare quasi tutto il disco, insomma. Infatti è bellissimo, grazie. Grazie Ornella. Grazie Ornella. Bene, ricordiamo ancora una volta il tuo sito, dove si può acquistare il disco, insomma. Allora, il sito è www.raberivale.it. C'è anche una sezione dove rimandano l'acquisto del disco, che è in distribuzione digitale sui maggiori store, chiaramente iTunes, Amazon, insomma i maggiori. Dopodiché, per il supporto fisico, ai nostri concerti. Oppure mi contattate in privato su Facebook e vediamo se suoniamo dalle vostre parti. Beh, un concerto prossimo lo devi fare in Emilia Romagna, perché Paolo ti rivuole lì. Ma certo, in Emilia Romagna abbiamo anche altri... Spero torni da queste parti. Sì, sì, sì, volentieri, ma lui lo sa, ma abbiamo anche altri contatti, quindi lo faremo. Ecco, a ottobre siamo a Bologna, per esempio, adesso che vedi? Mi viene in mente. E quindi lo aggiornerò il sito. Allora, prima di darci gli ultimi saluti, Raby, volevo ringraziare i tuoi musicisti, quindi Davide... Beh, grazie a voi, grazie a te Agostino. Vieni sempre vicino al microfono. Grazie a voi di Blue Radio e grazie di cuore. E grazie, insomma, di aver atteso così tanto la fine, insomma, hai suonato per un'ora in più. Poi anche la nostra chitarrista, che è sempre gentilissima, lei. La prossima volta ti chiedo 2 ore, va bene? No, la prossima volta vorrei non dovermi svegliare alle 6 di mattina il giorno dopo. Io suono tutta la notte, non ho problemi. Basta. Sei un tesoro, Ornella. Sì, guarda, sì. Se voi suoniamo fino alle 5, sì. Va bene. L'ha detto. Mi devo svegliare alle 6, capito? Sì, sì. Se quello... devi svegliare alle 6. Sì. Ciao. Grazie, comunque, grazie per aver accettato di restare qui. E poi un grazie lo faccio a te, a Raby, perché insomma mi hai portato una persona che porto nel cuore, che lo sai, che è appunto Rossella Liano, che è venuta a trovarci questa sera, che fa parte del tuo disco. Io invece, Agostino, vorrei ringraziare te, insomma, per questo scambio e per tutto. Sei stato gentilissimo, veramente. Anche a nome di Maurizio, ovviamente, perché siamo sempre in 2 che facciamo queste cose. Ovviamente anche Maurizio. Grazie, certo. Grazie. Rossella, noi ti aspettiamo qui, lo sai, inutile che ci giriamo tanto intorno. Lo so, guarda, ci stiamo organizzando, già sto pensando a come fare. No, vero, vero. Appena sai, dimmelo, che le porte per te va sono bene, aperte. Magari, va bene, grazie. Poi c'hai già un musicista extra, la Rebi che viene a trovare. Vengo a fare i sonaglietti. Ecco, esattamente. Va bene, Rebi, grazie per questa seconda puntata della tua vita musicale. Aspettiamo la terza. Grazie a voi. Quando e ci sarà? Sarò anche la terza, se ci sarà mai, perché siete un bel appuntamento di cuore che sarà rinnovabile con piacere davvero nel futuro. E io spero di vederti in qualche concerto anche al di fuori della sarà radio, fatto, insomma. Tu sai che vi avviso e quindi vi avviso. Grazie a te comunque, grazie a Maurizio, sempre per l'accoglienza che è grande. Un ultimo saluto di Paola, dice siete stati fantastici, soprattutto Ornella. Rossato o Memeo? O Rossato. Ma Rossato non dorme mai. Non dorme mai. La pesta, è tornata che la pesta. Gli dedichiamo l'ultima canzone alla Rossato. Va bene. Va bene. Allora, come ultimo pezzo... Dimmi, ti ho interrotto. No. Dimmi tu. Come ultimo brano vorremmo cantare Caso Campana, che è un brano del primo album, e appunto che parla del poeta Dino Campana, sì. Per fartela in breve, poi dei suoi ultimi anni che lui trascorre in manicomio, era uno psicotico, e quindi del suo cercare di non ricordare un grande amore che ha vissuto, perché ricordare fa male. Quindi io lo immagino così, e questo, il prossimo brano sarà Caso Campana. Stefania Schintu ti saluta. Oh, grandissima Stefania, ricambio. E Antonella Gucci. Benissimo, sì. Vedi? Sì. Ne hai tanti qui. Se noi continuiamo a stare qui continuano a salutarti. Va bene, grazie ancora a Rebi Rivale. Io do l'appuntamento assieme a Maurizio, ovviamente, a giovedì prossimo alle ore 21. Abbiamo un altro grande, grandissimo, enorme appuntamento. Forse uno dei migliori chitarristi italiani esistenti tuttora, e cioè Tolo Marton. È grandissimo, non ha bisogno di tante presentazioni, basta che digitate sul motore di ricerca Google quello che volete, insomma Tolo Marton, vedete quello che ha fatto. Addirittura, tanto per citare un nome, ha collaborato con le Orme. Poi Maurizio, aiutami tu. Sì, ho collaborato con Keith Richard, ha collaborato con Jeff Beck, ha collaborato con tutti praticamente. Suona come Ian Paice. Sì, ha suonato come Ian Paice, è un musicista rock, ma un grandissimo musicista, un grandissimo chitarrista. Dobbiamo ricordare che domani abbiamo un altro appuntamento, venerdì, avremo gli Universal Daughter, è un gruppo costruito per beneficenza, guidato da Marco Fasolo. Marco Fasolo è il leader di un gruppo qui Veneto internazionale molto importante, di Jennifer Gentle, e ha fatto questo progetto per beneficenza che ha ospitato musicisti di grande calibro come Alan Vega, musicisti americani, inglesi, per un disco molto interessante. Domani sera dalle ore 22:30 con Marco Borgato e il sottoscritto qui a Blu Radio Veneto. Come sentite, sempre musica dal vivo, sempre in acustico e sempre soprattutto emergenti, o quasi tutti, insomma, quasi tutti. C'è qualche bico ogni tanto che viene a trovarci. Bene, allora, un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano con il nostro musicale fino a mezzanotte circa. Poi ci sarà ovviamente l'appuntamento con Paola De Simone. E ancora grazie di cuore a tutti voi. Grazie a voi di Blu Radio Veneto. E... dimmi quando posso andare. Quando vuoi tu, non ti lascerai mai andare. Ciao, grazie. Ciao. Casa Campana. Scrivo cosa non so, sono un povero diavolo che scrive come sente, mani di un povero diavolo che scrivono col sangue. Solo ero libero e solo ho vissuto volando tra falchi e puttane, diviso anima e corpo, scrivendo parole di vento, di muschi e d'ombre, di terra, di sole. Ah, vi scongiuro, dottore, tutte queste domande divorano il cuore. Non so più se è reale o soltanto invenzione. No, un profumo di rose volute in attese, cercate, trovate, sfregiate di lacrime e sangue e di spine, se solo sapessi come dimenticare il rumore di petali addosso a quel viaggio che noi chiamavamo